Ieri oggi si discenderà molto in profondità, nonostante l'interesse del tema. Nell'arco di tempo che corre tra la prima convocazione del Concilio di Trento e la sua conclusione, la sovranità temporale dei papi, ho scelto questo titolo e non direttamente lo Stato Pontificio, col quale pure questa sovranità temporale si identifica, per enunciare anche dal titolo un po' quale vuole essere il taglio della relazione. E la sovranità temporale, presa nella sua incarnazione concreta, che è lo Stato Pontificio, ovviamente. Lo Stato Pontificio sembra aver mutato radicalmente, ad una osservazione esterna, tra la convocazione del Concilio e la sua conclusione, la sua fisionomia. Ad un esame più attento ed interno si rivelano però interessanti elementi di continuità in un processo storico che si sviluppa senza una cesura dal Rinascimento alla Controriforma. La mutazione appare soprattutto nei rapporti di politica internazionale, mentre le linee di continuità appaiono evidenti ad un esame interno della situazione dello Stato Pontificio. All'inizio esso appare come uno dei protagonisti della scena politica, come Stato del Rinascimento, anche se dotato di alcune caratteristiche particolari, prima tra le quali appunto la monarchia non di tipo ereditario, ma di tipo elettivo, che riproponeva ovviamente un modo del tutto diverso di reggere il potere rispetto agli altri stati. Ma a parte queste caratteristiche, esso si presenta come uno Stato di Rinascimento pienamente inserito sia per quanto riguarda la politica interna, sia per quanto riguarda il complesso intreccio dei rapporti internazionali nella dinamica politica europea. La sua è una presenza, e qui credo sia appunto l'osservazione di partenza per questa analisi che vorrei fare, la sua presenza è di nuovo tipo rispetto alla tradizione medievale, e questa presenza di nuovo tipo del Principato Pontificio si fa sentire anche direttamente sul Concilio di Trento, in occasione, per esempio, anzi soprattutto, del trasferimento a Bologna. Il confessore di Carlo V, Pedro de Soto, che ricordava già ieri il professor Lutz, dichiarava al nunzio Girolamo Verallo in quell'occasione: essendosi trasferito in Bologna, il concilio, terra di sua santità, non si terranno li voti per liberi, come era in Trento, di che ne fa segno il concilio ultimo lateranense, che per la stessa ragione non viene così debitamente osservato è tenuto per vero concilio come gli altri antichi. Questa è l'obiezione che viene fatta allo svolgimento del concilio nelle terre del Papa. Il nunzio aveva tutti gli argomenti per controbattere, è ovvio, invano il nunzio però controbatteva che anche nei secoli passati erano stati celebrati i concili nelle terre della Chiesa in Roma stessa senza che nessuno avesse trovato da ridire, e che tantomeno Bologna può essere allegata sospetta, cioè può essere accusata di essere sospetta dalle nazioni, per avere sua santità sempre conservata la neutralità et fatto ufficio di padre comune. Quindi la risposta di Roma è che in ogni caso il Papa era rimasto neutrale e non poteva essere sospetto. Queste argomentazioni erano molto deboli, e lo stesso cardinale legato Francesco Sfondrato, inviato subito dopo in Germania per continuare le trattative, consigliava confidenzialmente a Roma di non insistere nella continuazione del concilio a Bologna, oltre che per la scarsa partecipazione di prelati oltramontani, anche per essere quella città, sono le parole appunto di Sfondrato, della sede apostolica con la qualità delle controversie presenti. Cioè Bologna, in questo contesto di politica internazionale, non era una città agibile. Le quali, cioè le quali controversie, quindi la quale situazione di politica internazionale, non erano forse in quelli tempi che si ritrova essersi fatti concili in le terre della Chiesa. Cioè, sostanzialmente nel giudizio di Sfondrato esiste questa contrapposizione, insomma, tra la situazione del dominio papale al tempo dei concili antichi e la situazione del dominio papale come inserito nel contesto della lotta per il predominio europeo, che poneva appunto lo Stato papale nella condizione di non poter essere neutrale e quindi di non poter ospitare con piena libertà il concilio. In realtà questa controversia rispecchia nella diversità delle posizioni una chiara coscienza del mutamento che era avvenuto nel dominio temporale dei pontefici con il passaggio dal Medioevo all'età moderna. A mio avviso. Ci sarebbero anche molte altre interessanti lettere dall'Enunzia Turberichte sul problema appunto di come l'imperatore in qualche modo per la prima volta avvertiva di sentirsi estraneo alle terre della Chiesa, insomma. Ecco. L'imperatore a Roma non era mai stato estraneo nei secoli precedenti, adesso invece c'è questo senso, insomma, che si trattava di una sovranità esterna in qualche modo. Carlo V non voleva, ecco, questo, ma certamente avvertiva questa situazione, mentre Trento appunto adempiva tutte le condizioni richieste. Adesso forse è inutile fare un excursus sul passaggio dello Stato pontificio dalla situazione medievale a quella moderna, ma forse qualche cosa bisogna dire. Dopo la restaurazione compiuta da Martino V, dopo il Concilio di Costanza, elemento fondamentale di continuità nella politica di tutti i papi, dal secolo XV in poi, pur nella varietà delle singole direttive, era stata la ricerca di una garanzia di indipendenza della Santa Sede nell'esistenza di un solido dominio temporale e nell'ingresso di questo Stato nel grande gioco della politica di equilibrio in modo paritetico alle altre grandi potenze. Anche la nuova politica dei concordati, dalla metà del 400 in poi, politica che permette al papato l'esercizio di un'azione universalistica, seppur in termini molto più ridotti che in passato, in questa nuova situazione, questa politica dei concordati è sempre più condizionata da rapporti politico-diplomatici. Ricordiamo la nascita, la trasformazione delle collettorie in nunziature, eccetera, eccetera. Sono tutte cose nate che avvengono appunto durante il corso del XV secolo e nei primi decenni del XVI. Di qui l'importanza crescente dello Stato pontificio per inserire la Santa Sede nella politica internazionale con caratteri di piena sovranità. Questa scelta, che pone in primo piano i problemi dello Stato, non è senza conseguenze sia sul piano spirituale che sul piano politico per il papato del Rinascimento. Da una parte abbiamo lo sviluppo di un processo di mondanizzazione e secolarizzazione con la conseguente diminuzione del prestigio spirituale, e quanto questo poi influirà sulla riforma lo sanno tutti. Dall'altra parte, l'accettazione completa del metodo politico e l'inserzione dello Stato papale nelle grandi contese che si aprono all'inizio dell'età moderna per il predominio dell'Italia e dell'Europa tendono inevitabilmente, mediante il nepotismo come necessario strumento del governo personale dei papi, a trasformare lo Stato in signoria secolare, incompatibile con il principio religioso fondamentale di servizio verso la Chiesa universale, principio che rimane l'unica giustificazione ideologica dello Stato della Chiesa, con una contraddizione che appunto Machiavelli denunciava così lucidamente nei discorsi sulla prima decade di Tito Livio e in altre parti. Cioè questa scomposizione all'interno, ecco, del potere temporale dei papi rispetto a una tradizione medievale in cui la Repubblica Cristiana di cui si parlava ieri dava questo contenitore che impediva non certi contrasti, ma certamente impediva la schizofrenia delle due posizioni. Sul problema del nepotismo, anche qui si potrebbe fermare, vorrei solo dire che Adesso è uscito l'anno scorso uno studio di Reinhardt su questo tema del nepotismo che tende a fare una costante storica, e con tutto ci sono molte cose giuste. Ecco, io credo che esistano molte forme di nepotismo e bisogna affrontare storicamente, insomma, ecco, questo dei papi del Rinascimento è strumento di potere, cioè è strumento indispensabile per l'esercizio del potere politico, che altrimenti non avrebbe potuto, ecco, trovare una sua espressione di sovranità piena. Quindi è uno strumento che è arma di governo essenziale e necessario in questo qua. La storia dello Stato papale, quindi tra il XV e il XVI secolo, sembra consistere in un alternarsi di fasi contrapposte, che voi conoscete. Il successo di un periodo di consolidamento sembra portare in sé le cause del suo fallimento, per il vuoto di potere che segue ogni morte di pontefici e per i mutamenti che ogni nuova elezione comporta a tutti i livelli delle strutture statali. Alessandro VI Borgia, dal 92 al 503, non fa che sviluppare e portare alle ultime conseguenze la strumentalizzazione dello Stato in senso familiare, con la spedizione particolarmente di Cesare Borgia, eccetera, per la costituzione di una sua signoria personale nelle terre papali di Romagna, impresa che non raggiunge il suo definitivo compimento, come è noto, per la morte prematura dello stesso Papa. Per questa circostanza, l'opera di Cesare Borgia, sono tutte cose note, ma volevo proprio fermarmi su questo tipo di passaggio, l'opera di Cesare Borgia, che sembrava condurre alla trasformazione dello Stato papale, o di gran parte di esso, in principato dinastico, si rivela invece come il punto di partenza per una nuova fase di consolidamento e di restaurazione della monarchia papale. La vittoria del Borgia sui signori di Romagna e sulle fazioni nobiliari non va perduta, ma costituisce il fondamento per l'affermazione diretta della sovranità statale anche al di là dei confini della Romagna. Giulio II, il successore, dal 1503 al 1512, è stato definito fondatore dello Stato Pontificio proprio in quanto utilizza e continua la grande impresa dei Borgia con la definitiva sottomissione di Perugia e Bologna, non più per interessi familiari, ma a servizio della potenza secolare del papato. Quindi abbiamo questa continuità nella diversità. Il consolidamento operato da Giulio II, se pone fine allo smembramento dello Stato, non significa peraltro una diminuzione della spinta nepotistica, proprio perché appunto il nepotismo rimane una forma di governo anche all'interno dell'esercizio della sovranità, non solo, come è capitato, in funzione dello smembramento della medesima. Con i papi appartenenti alla potente casata dei Medici, Leone X, Clemente VII, l'intervento politico, diplomatico e militare nelle contese internazionali tende a crescere, strumentalizzando lo Stato Pontificio nei confronti delle iniziative dirette al mantenimento e all'ampliamento del dominio medicio sulla Toscana e anche sull'Italia settentrionale, anche se poi il tentativo in Italia settentrionale andrà a favore non dei Medici ma dei Farnesi con la costituzione successiva del Ducato di Parma e Piacenza. In ogni caso si tratta però di territori decentrati rispetto al corpo dello Stato papale, all'interno del quale invece viene continuata con vigore la lotta contro le superstite autonomie cittadine e feudali. Clemente VII mette al sacco Ancona e spegne in essa ogni residua autonomia municipale. Paolo III piega la ribellione di Perugia con una feroce repressione e rade al suolo la roccaforte della potente famiglia dei Colonna, il castello di Pagliano. Questo è sinteticamente il quadro nel quale lo Stato Pontificio si presenta all'apertura del Concilio. Quindi con una forte affermazione della sovranità all'interno e la definizione, diciamo, abbastanza netta di confini. Le prime due fasi sono ancora dominate dalle preoccupazioni per gli interessi politici dello Stato e familiari all'interno del grande conflitto tra Francia e Impero, le lotte per Parma e Piacenza in particolare, poi la guerra di Siena, sino all'epigono, tanto bene studiato da Lutz nella Christianitas Afflicta, cioè al maldestro tentativo antispagnolo di Paolo IV. Con la fine delle guerre d'Italia e il trasferimento oltre Alpe del baricentro della lotta per il predominio in Europa, la politica estera dello Stato Pontificio perde dal punto di vista territoriale il vigore e l'importanza dei decenni precedenti e tende a ridursi a episodi circoscritti. Di qui appunto la grande differenza che c'è tra lo Stato Pontificio durante le prime fasi del concilio, le prime due fasi, e lo Stato Pontificio della terza fase, dopo la pace di Cateau-Cambrésis e lo spostarsi della lotta su altri piani. Dopo la conclusione del concilio, l'importanza dello Stato, anche se molto diminuita dal punto di vista della politica internazionale, come abbiamo detto, riesce rafforzata dalla ripresa dell'azione universalistica del papato in seguito alla restaurazione morale e disciplinare e alla lotta contro il protestantesimo. Lo stato della Chiesa sembra ritrovare la sua giustificazione ideologico-religiosa, anche se, come vedremo, appunto, in realtà si tratta di una affermazione del principio teologico dello Stato papale in modo totalmente diverso da quello medievale, divenendo strumento della controriforma non soltanto come garanzia di indipendenza, ma anche come supporto politico e finanziario della nuova azione universale del papato. Pur nel mutamento del quadro politico generale, non si verifica quindi, dopo il Concilio di Trento, un mutamento sostanziale nel rapporto tra i pontefici e lo Stato, anche se viene modificato appunto il quadro generale e il recupero, diciamo, ideologico, anche se molti aspetti di questo rapporto sono mutati. Il processo di rafforzamento dell'autorità statale continua e si sviluppa sulla linea dei decenni precedenti, trovandola nella nuova situazione creatasi con la controriforma, la spinta ideologica e politica per vincere le resistenze delle forze centrifughe che ancora si oppongono allo sviluppo del centralismo e dell'assolutismo. Quindi, dal punto di vista del rafforzamento del potere politico, noi abbiamo appunto una linea di continuità con i decenni precedenti. I papi della Controriforma, Pio V, Gregorio XIII, Sisto V, Clemente VIII, sono i grandi protagonisti dell'affermazione dell'assolutismo statale. Le nuove concessioni di feudi vengono abolite, mentre inizia il recupero delle terre in altri tempi concessi in feudo. I tentativi di ribellione e il banditismo vengono duramente combattuti, le strutture amministrative centrali e periferiche trasformate secondo il principio centralistico delle moderne monarchie. Questo processo sembra raggiungere il suo compimento nel 1598 con l'acquisto di Ferrara per diritto di devoluzione in seguito alla morte di Alfonso II d'Este senza re di legittimo. Alla fine del Cinquecento, per terminare questo brevissimo e molto superficiale panorama, i confini dello Stato papale assumono la loro fisionomia definitiva destinata a durare per secoli sino al declino. Nel 600 saranno pacificamente recuperati i due residui territori di Urbino, che era sino al 1631 in possesso dei Della Rovere, e Castro, che era dei Farnesi fino a metà del 600. Con l'eliminazione quindi delle due ultime isole di sovranità laica all'interno dei confini e con l'attuazione completa dell'unificazione territoriale. Quindi appunto quello che mi premeva risultasse così brevemente come si poteva fare, è questo arco che copre dal secolo XV fino alla fine del XVI, in cui noi vediamo questa linea costante di costruzione del Principato, al cui centro noi troviamo il Concilio di Trento, insomma, troviamo l'epoca tridentina. E ora vorrei tentare di passare, diciamo, ai problemi dopo questa introduzione descritta. Il rapporto tra la sovranità temporale dei pontefici e il Concilio di Trento può essere affrontato da due diversi punti di vista. Un primo punto di vista consiste nell'analisi esterna dei fatti politico-diplomatici, nell'oscillazione e nelle contraddizioni delle iniziative papali e curiali. Pensiamo al caso appunto alle preoccupazioni di Papa Paolo III Farnese per conservare Parma e Piacenza, pensiamo a tutte queste serie di fatti. Secondo le linee, questi studi già sviluppati da Ranke e dal Pastore in modo così geniale e documentato. Ben poco, però, mi sembra, si potrebbe trovare di veramente nuovo scavando in questa direzione. Forse solo qualche frammento curioso. Mi pare che le linee siano già scoperte. Anche Heinrich Lutz ha sottolineato alcuni anni or sono la necessità di superare la pur splendida storiografia tradizionale sul papato della metà del Cinquecento con un allargamento degli orizzonti. Lutz è il miglior conoscitore di questi problemi della politica europea nel rapporto al papato della metà del Cinquecento. Più interessante e carico di nuove prospettive appare il secondo punto di vista, che è quello su cui io vorrei fermarmi, che consiste nel tentativo di chiarire quali sono stati gli influssi della riforma tridentina sulle strutture dello Stato pontificio, sulla concretizzazione quindi della sovranità temporale dei papi, nella sua appunto realtà quotidiana, diremmo, e inversamente quanto la presenza dello Stato pontificio ha influito sull'elaborazione della riforma tridentina e soprattutto sulla sua attuazione da parte della Curia romana. Cioè a me pare che questo secondo panorama della scoperta degli influssi reciproci tra riforma tridentina e Stato pontificio e viceversa, tra Stato pontificio e riforma tridentina, possa ancora essere un argomento pieno di sorprese e in qualche modo fertile per la ricerca storica. In questa seconda direzione cerco ora di muovermi con una sintetica enunciazione di ipotesi e di linee di ricerca, in modo molto limitato e nello stesso tempo aperto e problematico, sia per la natura di questa relazione, sia soprattutto perché anche per me si tratta di uno scavo appena iniziato che non ha portato sino ad ora ad alcuna conclusione. Il problema del rapporto tra riforma tridentina e Stato papale è stato posto nel 1961, diciamo per la prima volta in modo organico, naturalmente non è che fosse una scoperta del tutto, da Giampiero Carrocci in una sua opera che pur nella frammentarietà e farraginosità della documentazione e nella debolezza dei risultati, insomma un'opera un po' affrettata, diciamo pure, con alcune intuizioni però che io credo ancora valide. Carrocci, Giampiero, lo stato della Chiesa nella seconda metà del secolo XVI. Ecco. È un libro che, a mio parere, io criticai molto duramente tempo fa e che le critiche le mantengo ancora. Ecco, va smontato tutto perché è un insieme di documentazione molto frammentario. Però poneva proprio il problema dei riflessi che la riforma in capite, sono le parole di Carrocci, ebbe nell'amministrazione dello Stato ecclesiastico. Lui continuava così: nella realtà questo problema era strettamente connesso con l'altro, con quello di consolidare le strutture assolutistiche dello Stato, tanto che essi si presentano come due aspetti di un unico processo in atto. Quasi contemporaneamente Jean de Lumeau, lo storico francese ben noto, al termine della sua vasta indagine sulla vita economica e sociale di Roma nella seconda metà del Cinquecento, era arrivato alla conclusione che Roma è divenuta, nel corso del secolo XVI, la capitale di un vero Stato, come mai era avvenuto in passato, sia dal punto di vista economico che da quello culturale e politico. Cioè, la conclusione della grande opera di Delumeau sulla vita economica e sociale di Roma, nella seconda metà del Cinquecento, sono molto sinteticamente questo, insomma, ecco. Che Roma non era una capitale precedentemente al Concilio di Trento, lo diventa con e dopo il Concilio, in tutti i sensi, e principalmente anche in senso politico. Cioè diventa la capitale di un vero Stato, come mai era avvenuto. Queste conclusioni il Delumeau poi li riprese anche dopo in una comunicazione presentata all'undicesimo Congresso Internazionale di Scienze Storiche a Stoccolma e che credo rappresenta un punto di partenza sempre molto valido per tutti coloro che devono accostarsi a questi temi. Soltanto nel Cinquecento, dice Delumeau, sono 10 paginette, non di più, ma molto significative, si è realizzato il sogno di uno Stato sottoposto al Papa, non più nominalmente ma effettivamente. Nel corso del secolo sono state ampliate le frontiere, soppresse le autonomie cittadine e feudali. È stata creata un'amministrazione centralizzata ed efficiente. Contrariamente all'opinione corrente, lo Stato pontificio non era in ritardo sugli altri Stati europei dal punto di vista della concentrazione della sovranità, ma al contrario, per molti aspetti, era all'avanguardia. Quindi col Delumeau noi troviamo un rovesciamento rispetto alla tradizionale storiografia che vedeva sempre lo Stato pontificio come un ammasso di debolezze, ma invece vede uno Stato pontificio, diciamo, uno Stato che si pone almeno alla pari, se non avanti, agli altri Stati d'Europa nello sviluppo istituzionale del potere assoluto. Accanto a queste tematiche intracciate con esse, non hanno meno importanza, a mio avviso, e questo non mi risulta che sia stato studiato, altre tematiche relative all'impronta che lo sviluppo dell'assolutismo politico pontificio ha lasciato all'interno delle strutture e della vita della Chiesa. La genesi di molte istituzioni della Chiesa romana in vigore sino ai nostri tempi va ricercata non soltanto nella loro continuità con le tradizioni antiche e medievali, ma anche nelle innovazioni che sono derivate alla Curia di Roma dalla sua trasformazione e dalla trasformazione del complesso di territori tra loro eterogenei che costituiva il dominio temporale dei papi nel Medioevo in uno Stato accentrato ed assoluto. Recentissimamente, anche l'anno scorso, Roberg, nel seminario tenuto sotto la direzione di Lutz a Roma, sottolineava come anche la stessa carriera dei nunzi passasse attraverso incarichi di tipo statale, cioè fossero percorsi burocratici e di formazione che avevano molto forte proprio questo punto dell'impegno di tipo politico, amministrativo. Questo mi pare sia solo un esempio di tutto un certo tipo di sviluppo della non solo della diplomazia, ma della Curia romana nel suo insieme. Il problema centrale, allora, rimane quello del carattere bifronte della monarchia pontificia, che nel turbine del processo di secolarizzazione rinascimentale della riforma religiosa divarica e nello stesso tempo sovrappone le due facce. Il pontefice è nello stesso tempo capo della cattolicità rinnovata e principe di uno Stato territoriale. Questa constatazione, tanto ovvia da sembrare banale, e ripetuta quasi con monotonia come promessa alle relazioni degli ambasciatori veneti del Cinquecento, non mi pare però che sino ad ora sia stata sufficientemente approfondita sia nel divenire storico della divaricazione stessa, sia nell'intreccio e nello spessore delle sue espressioni politiche ed ecclesiastiche. Quindi, tra gli argomenti che hanno assunto la consistenza di ipotesi di lavoro per una ricerca ancora da compiersi, mi pare sia quello del rapporto tra potere spirituale e potere temporale all'interno dello Stato pontificio nell'età tridentina. È un tema su cui mi pare che non ci sia ancora un terreno solido. Tema importante sia per la storia stessa dell'attuazione della riforma, sia per la comprensione dello sviluppo statale del dominio pontificio. Infatti, quel dualismo di cui si diceva prima non si manifesta soltanto al vertice, nel Papa, ma in tutte le strutture inferiori della Curia e dell'amministrazione, in un intreccio profondo delle istituzioni che mette il potere spirituale al servizio di quello temporale, con un'interferenza che se in seguito provocherà le più gravi contraddizioni, in un primo tempo è uno dei più forti fattori di affermazione dell'autorità dello Stato. Cioè il fatto che in Roma, insomma, il potere spirituale fosse unito al temporale determina per lo Stato pontificio una situazione di privilegio rispetto ad altri Stati europei, in vista della concentrazione del potere. Lo Stato pontificio del Cinquecento segue il processo di consolidamento dei moderni Stati assoluti anche per ciò che riguarda l'estensione dei poteri statali nei riguardi della Chiesa. Anzi, penso si possa dire, pur sembrando questa un'affermazione paradossale che forse scandalizza, che lo Stato pontificio è all'avanguardia del processo di laicizzazione dello Stato moderno, proprio per l'uso dello strumento spirituale di cui esso solo poteva disporre. Adesso qui ci sarebbero varie cose da dire anche sulla vecchia storiografia che riteneva invece questo legato all'indebolimento fin dall'inizio dello Stato Pontificio, ma credo sia necessario sorvolare. Per il periodo medievale abbiamo interessanti studi sui rectores provincialum dello Stato Pontificio e in particolare sulla figura del rector in spiritualibus, che già allora esercitava questa funzione in fulcimentum, come si diceva, et auxilium temporalis iurisdictionis, cioè c'era questa l'amministrazione divisa nel rector in temporalibus, nel rector in spiritualibus, e il rector in spiritualibus si curava della parte ecclesiastica ad fulcimentum, quindi per il sostegno. Ecco, ma appunto ci sono studi sull'ampliarsi di questa giurisdizione dello Stato sui chierici medievali. Per l'età successiva non abbiamo alcuno studio sistematico, ma si può dire che con la trasformazione dei domini pontifici in principato, l'intervento dello Stato nelle questioni religiose assume forme nuove e pressanti in relazione all'affermarsi del potere statale e del centralismo amministrativo. Basta scorrere i carteggi di Francesco Guicciardini, come governatore di Modena e Reggio, poi presidente della Romagna, poi vicelegato a Bologna nella sua lunga carriera di funzionario papale, laico, per avere la sensazione quasi fisica del potere esercitato da un funzionario laico, sia pure di statura eccezionale, quindi non è che bisogna misurare su Guicciardini la prassi dei governatori, ma la sua autorità sul mondo ecclesiastico, dalle esecuzioni penali alla lotta contro le immunità e il diritto d'asilo, alle imposizioni fiscali, sino lo stesso conferimento dei benefici ecclesiastici. Cioè tutto lo sforzo di Guicciardini, e magari poi dopo, se credete, possiamo leggere qualche lettera, è proprio nel tentativo di consolidare il potere dello Stato sul clero. Perché se non si fa questo, dice, è inutile, qualsiasi mia azione va a vuoto. Quando può, Guicciardini agisce di sorpresa senza chiedere il permesso a Roma e chiede dopo la soluzione, cioè a Reggio nel 1518. Prende due preti in flagrante di banditismo, li ammazza di notte e poi chiede la soluzione a Roma al mattino. Insomma, ecco, questa era ecco, soluzione che gli viene poi concessa. Altre volte, invece, ovviamente, a procedure più normali. Però al centro dei suoi carteggi, diciamo, come dico, dopo poi magari possiamo guardare qualcosa nella discussione, c'è questa preoccupazione che arriva sino al conferimento dei benefici ecclesiastici. Perché dice, se non posso disporre dei benefici, io qui non ho potere, io non riesco a governare queste zone. Quando nell'ambito della riforma cattolica fiorano decise tendenze a un rinnovamento della vita religiosa, sono i vescovi dello Stato Pontificio a denunciare gli impedimenta, come si diceva allora, che derivano alla loro azione pastorale da parte delle autorità politiche. Già in una raccolta di Episcoporum Petitiones del 40 a Paolo III si faceva presente la situazione particolarmente dura dei vescovi dei territori papali. Dignetur sanctitas vestra decernere, quod gubernatores, et quicunque magistratus civitatum sedi apostolici subiectarum, se non intromittant, che non si mescoli nelle cose, nisque ad iurisdictionem episcopalem spectant. Sic ut accit idinalis civitatibus sedi apostolici non subiectis, come capita nei territori non soggetti direttamente al potere papale. Ne earum episcopi sint deterioris conditionis, quam ali episcopi civitatum e idem sedi non subiectarum, cioè affinché i vescovi dello Stato della Chiesa non siano in peggiori condizioni dei vescovi che sono in altri stati di altri principi. La richiesta era stata ritenuta giustificata dallo stesso Paolo III, che l'aveva accolta, sia pure condizionalmente, nella bolla di riforma su pene di deposizione e consigli, che poi non fu promulgata. Viene poi inserita parzialmente nel canone 20 di riforma della 24esima sessione tridentina, nel quale anche i legati, nunzi e gubernatori ecclesiastici vengono diffidati dall'interferire nella giurisdizione ordinaria dei vescovi per le cause di prima istanza pertinenti al foro ecclesiastico. Quindi questo decreto tridentino viene poi richiamato nel periodo successivo dai vescovi dello Stato Pontificio a loro difesa contro gli interventi dello Stato, cioè che lo Stato della Chiesa cominciasse a rispettare dal territorio papale quello che chiedeva che gli altri sovrani rispettassero come immunità ecclesiastiche, esenzioni, eccetera, in altri Stati. In realtà, anche questo canone non pare molto rispettato nella prassi post-tridentina dello Stato pontificio. Già il Concilio di Trento, secondo me, è più interessante, ma illustrerà domani Alberigo proprio il rapporto che esiste invece con l'elaborazione poi del canone sulla riforma dei principi, insomma, ecco, perché evidentemente sono due temi connessi. Nel periodo posteriore, io avevo fatto tempo fa, quando studiavo, insomma, i sondaggi per Bologna, avevo raccolto una quantità di documentazione, che in parte ho già edito, sulle proteste del Vescovo e i suoi rapporti con Roma contro quelle che lui giudicava le oppressioni dello Stato. La suggiurisdizione, la giurisdizione del Vescovo è menomata con l'invio di commissari speciali, con l'abolizione di immunità e esenzioni fiscali dei chierici, con la sottrazione delle cause in prima istanza e della collazione dei benefici, con l'intervento continuo dei legati e dei governatori in problemi puramente religiosi di disciplina ecclesiastica, con procedimenti anche contro sacerdoti e perfino con interventi diretti contro il Vescovo e i suoi ufficiali. Cioè, non sto, dico qui si potrebbe andare avanti per qualche ora, insomma, ma le processioni sono fatto politico, il governatore dice come vanno fatte le processioni e così via, insomma. Questa è la situazione, diciamo, post-tridentina nello Stato della Chiesa. Riviando a quanto già scritto a proposito del Vescovo bolognese, delle sue difficoltà e della sua convinzione crescente che anche lo Stato della Chiesa si comporta peggio degli altri Stati laici, dice, sino alla lucida definizione di se stesso come Vescovo con la mitra sola, senza il pastorale, così si definisce questo Vescovo come Vescovo dello Stato della Chiesa, cioè che non ha nessun potere di vero governo della Chiesa. E voglio soltanto qui aggiungere che i sondaggi compiuti successivamente e che devono ancora essere allargati anche su questo, poi potrei magari nella discussione leggere qualcosa se c'è tempo, sulle facoltà concesse, sondaggi sulle facoltà concesse dai papi della seconda metà del Cinquecento ai cardinali legati, ai vicelegati, ai governatori, ai commissari, i bandi generali dei governatori stessi, i carteggi relativi alla loro attività sembrano confermare che la situazione bolognese è comune a tutto lo Stato della Chiesa. I rappresentanti del governo centrale di Roma non diminuiscono, ma al contrario aumentano i propri poteri sulla Chiesa per le necessità crescenti dell'organizzazione amministrativa e fiscale. Vedremo dopo, insomma, la tassazione continua comincia dagli anni 30 nello Stato pontificio, cioè la fiscalità in senso moderno, e questo diventa appunto, come loro sanno, uno strumento che si sviluppa proprio nell'età conciliare, anche nell'età del Concilio Tridentino e poi nei decenni successivi. Anche per la lotta contro il banditismo diventa essenziale per i rappresentanti del governo politico il controllo della Chiesa. Paradossalmente, solo in apparenza, il Tridentino, imponendo la riforma della Curia Romana e quindi la sua clericalizzazione, accelera questo processo e mette nuove armi nelle mani del governo pontificio. Questo mi sembra una cosa da discutere. Forse dico proprio cose da discutere, nel senso che questo tipo di verifica mi pare sia la cosa più importante da fare. Perché? Perché quello che non riusciva al laico Guicciardini nella prima metà del secolo, o riusciva raramente con queste sue impennate appunto di fare impiccare i preti di notte, riesce molto facilmente ai vescovi governatori, ai governatori che sono vescovi, che sono prelati nella seconda metà del secolo. Cioè, paradossalmente, ripeto, nella seconda metà del secolo è vero che i funzionari più importanti sono tutti ecclesiastici e quindi ci troviamo di fronte a un fenomeno di clericalizzazione delle strutture dello Stato. Ma proprio per questo non hanno più le limitazioni e le remore che avevano messo in difficoltà alcuni decenni prima il laico Guicciardini. Procedono come vicari generali del Papa, in forza della doppia potestà ricevuta, senza la preoccupazione di quei conflitti giurisdizionali che avevano fatto esplodere, ad esempio, la situazione milanese durante l'episcopato di Carlo Borromeo nelle tensioni con il governo spagnolo. L'uso di strumenti ecclesiastici e di armi spirituali nella conduzione degli affari di Stato da parte del papato nell'età tridentina mi sembra quindi essere un tema di grande interesse sia per le nuove prospettive che può aprire nel modo di considerare i rapporti Chiesa-Stato e i conflitti giurisdizionali dell'età moderna, cioè per i riflessi che questo può avere in un certo tipo di interpretazione storica dei conflitti giurisdizionali tra Chiesa e Stato negli stati secolari, sia per la comprensione dell'evoluzione delle strutture del papato e della curia romana, nelle quali l'impronta lasciata dallo Stato pontificio è rimasta così forte anche dopo più di un secolo dal suo tramonto. E qui si entra nel problema delle istituzioni, mi limito a qualche accenno, vedo che è un po' tardi. Prima, istituzioni. Delle istituzioni. Il primo problema in rapporto al quale queste linee di ricerca vanno sviluppate mi sembra essere naturalmente quello relativo al conformarsi graduale in monarchia assoluta del potere pontificio, processo che avviene in tempi lunghi ma che ha il suo perno nell'età tridentina e che può considerarsi concluso alla fine del Cinquecento. Cioè non si tratta solo di consolidamento statale, ma anche di consolidamento proprio monarchico. Accanto allo studio dottrinale ed ecclesiologico, non può essere trascurato l'esame della concreta prassi dell'esercizio del potere papale nell'intreccio inscindibile, al termine di questo periodo c'è Bellarmino dal punto di vista appunto della coscienza ecclesiologica e teoretica, insomma, ecco. Ma credo che sia importante lo studio, l'esame della concreta prassi dell'esercizio del potere papale nell'intreccio inscindibile tra il governo della Chiesa universale e quello del dominio temporale sul piano delle istituzioni. Ecco, adesso anche qui altre cose ho scritto in altra sede, quindi qui mi limito solamente ad accennare ai temi principali che credo vanno approfonditi nel divenire concreto del rapporto tra riforma religiosa e dominio temporale. Anzitutto la decadenza del Senato cardinalizio, questo è un tema ancora, mi pare, estremamente importante. Il limite principale all'esercizio di potere personale assolutistico del pontefice del Medioevo derivava, come tutti sanno, dal Collegio dei Cardinali, che come vero e proprio Senato congovernava con i papi non solo la Chiesa, ma anche lo Stato. Cioè, senza l'approvazione dei cardinali non si poteva dichiarare guerra, non si poteva, eccetera, eccetera, secondo le capitolazioni medievali, eccetera. Dalla metà del secolo XV alla fine del successivo, il collegio cardinalizio perde in gran parte la sua funzione di rappresentanza delle nazioni della cristianità, ci sono gli studi di Edin sulla italianizzazione del collegio dei cardinali, eccetera, e viene gradualmente svuotato della sua autorità. I concistori, cioè le riunioni del Senato cardinalizio, tendono a divenire riunioni puramente formali, nelle quali non vi è vera discussione, cioè vi è solo la presentazione da parte del Papa dei problemi, ma dei problemi già risolti. Finché dalla fine del Cinquecento in poi diventano sempre più rari. Voi pensate che il concistoro tradizionalmente nel Medioevo si svolgeva 3 volte alla settimana, e questo arriva fin quasi alla fine del Cinquecento, sia pure con qualche rallentamento, poi diventano 2 volte al mese, poi sono rimasti soltanto in occasioni come quelle della promozione dei cardinali stessi o delle proclamazioni dei beati, dei santi. Insomma, mi pare che questi sono negli ultimi tempi, negli ultimi secoli. E quindi c'è questa eliminazione del Collegio dei Cardinali dal governo politico. Il Concilio di Trento sembra inserirsi in questo processo in funzione subordinata e passiva più che attiva. Il decreto primo di riforma della 24ª sessione estende ai cardinali i requisiti intellettuali e morali richiesti per le nomine episcopali, cioè appunto attua, come si suol dire, la riforma del collegio, dicendo che non si può essere nominati cardinali senza eccetera eccetera, tutti i requisiti appunto di tipo morale e intellettuale. Ma dal nostro punto di vista si tratta di un intervento sul piano morale che in un certo senso faciliterà, con la diminuzione del ruolo tradizionale delle grandi famiglie cardinalizie e con poi anche la moltiplicazione del numero dei cardinali, la concentrazione del potere e la riduzione dei cardinali stessi a funzionari di curia. cioè sembra che la norma tridentina abbia in qualche modo avuto dei risvolti, cioè un'azione certamente di moralizzazione del collegio e di trasformazione radicale rispetto a quello che era il collegio dei cardinali rinascimentale, ma dal punto di vista politico certamente ha costituito un passo verso lo sviluppo dell'assolutismo papale. E soprattutto poi non è stata per nulla applicata l'accenno che c'era alla rappresentanza delle varie nazioni, cioè l'italianizzazione del collegio è continuata, anzi si è aggravata fino ad arrivare, mi pare, all'80% dei cardinali italiani alla fine del XVI secolo. E a questo proposito, cioè la riduzione dei cardinali stessi a funzionari di curia, il peso dello Stato si fa sentire in modo determinante. E anche queste sono cose note, cioè contemporaneamente a quanto avviene negli Stati moderni e in qualche modo anche precedendoli, lo Stato Pontificio compie un analogo processo nella curia romana, con la nascita delle congregazioni cardinalizie, che nascono proprio a metà del Cinquecento, nel periodo tridentino, come commissioni ristrette interne al Collegio dei Cardinali, e se ne distaccano gradualmente per divenire organi centrali di collegamento tra politica e amministrazione. Quindi questa trasformazione dei cardinali in burocrati avviene attraverso proprio la formazione dei grandi dicasteri della Curia Romana, delle congregazioni cardinalizie, che prima sono commissioni interne al Senato, e quindi diremmo commissione parlamentare, poi si diventano organi invece amministrativi di governo. E Sisto V, come sapete, nel 1588 sistematizza tutto questo problema del governo della curia in 15 congregazioni fisse, e nella bolla immensa dei è interessante vedere che le congregazioni che riguardano il governo della Chiesa e il governo dello Stato sono mescolate completamente, cioè non c'è un ordine. Naturalmente si parte dall'Inquisizione, che è il fondamentum di tutto, ecco. E però dopo si parla della congregazione dei ponti, delle acque e delle strade, e poi dopo quella dei riti e viceversa, insomma, ecco, cioè non c'è una distinzione, nemmeno nell'ordine. Sono tutte congregazioni che alle dirette dipendenze dei pontefici raggiungono la loro fisionomia di dicasteri, con un sistema che, partendo dai territori dello Stato, investe tutta la gestione della Chiesa romana. Il nuovo organo unificatore delle varie attività amministrative ed ecclesiastiche, strumento per la realizzazione della politica assolutistica dei papi e da questi totalmente dipendente, è la Segreteria di Stato, che diventa in questo periodo l'organo motore. E anche qui la partenza, direi, è nell'età tridentina, che è proprio, diciamo, dopo il fallimento del rapporto tra Carafa e i suoi nipoti, insomma, è proprio nel terzo periodo che l'opera di Carlo Borromeo come strumento piuttosto attivo, insomma, della politica conciliare di Pio IV trasforma, direi sostanzialmente, questa funzione di segretariato in una funzione politica come quella della Segreteria di Stato, anche se il nome Segreteria di Stato verrà dato soltanto, mi pare, nel 1605, come ha detto Kraus, per la prima volta. Ecco, noi abbiamo nella seconda metà del Cinquecento già la formazione, prima con Borromeo, poi con Tolomeo Gallio e con altri grandi cardinali fiduciari dei pontefici, la formazione di una linea continua, di un organo, di sintesi, diciamo, della politica papale. E questo è anche questa una grossa novità che è stata studiata, che è ben nota, quindi io qui non dico nient'altro. Ecco, alla crescita della Segreteria di Stato è connessa anche l'evoluzione delle istituzioni diplomatiche, delle nunziature, perché appunto acquistano questo doppio aspetto di impegno nell'attuazione della riforma tridentina, e da una parte, e appunto di rappresentanza politico-diplomatica dello Stato Pontificio dall'altra. Anche nelle nunziature, appunto, ai rapporti tra la Santa Sede e gli Stati viene data un'impronta che sopravvive ancora largamente dopo la fine del dominio temporale e che ha concretamente determinato un tipo di legame del tutto nuovo rispetto alla tradizione medievale tra il papato e le varie chiese della cristianità. Questa è una cosa forse ovvia, ma bisogna appunto direi soprattutto cercare di datare le cose. Il tipo di rapporti che noi abbiamo sviluppato con gli stati, con le nunziature, col sistema dei concordati, eccetera, può essere appunto datato non rispetto alla tradizione medievale che non conosceva questo tipo di rapporti tra chiese particolari e chiese universali, ma attraverso questo processo. Anche la consulta, come si chiamava, e più tardi la congregazione del buon governo, incaricati di sovrintendere l'amministrazione interna dello Stato, rimangono, come gli altri uffici burocratici tradizionali, cancelleria, eccetera, politicamente subordinati alla segreteria di Stato, dalla quale dipendono politicamente gli organi periferici dell'apparato amministrativo. Mentre vengono sistematicamente represse le antiche autonomie municipali e feudali, delle quali spesso rimane soltanto la forma senza più alcun potere sostanziale, anche le autorità originarie dei cardinali legati preposte alle singole regioni, o come si chiameranno più tardi, legazioni, viene circoscritta e vincolata a precisi mandati. Cioè abbiamo anche nello Stato Pontificio, come negli altri Stati, poi questo irrigidimento, questa maturazione del corpo burocratico, la nomina dei loro principali collaboratori e più alti funzionari, vicelegati, governatori, eccetera, viene gradualmente riservata al Papa in una subordinazione diretta che trova, come negli altri stati moderni, nello stipendio il fondamento di un corpo burocratico centralizzato. Ma appunto sugli organi centrali, sulla segreteria di Stato, abbiamo ottimi studi, insomma, anche se qualcosa c'è da fare. Così pure grandi passi in avanti sono stati fatti, particolarmente negli ultimi anni, per la storia della, soprattutto direi il campo che è più progredito negli ultimi anni è la storia dell'apparato fiscale, della Camera Apostolica, dove pure però c'è ancora tanto da lavorare, insomma. Perché questi studi riguardano nella loro quasi totalità i problemi di bilancio, di fisco, di debito pubblico, ma senza un adeguato approfondimento degli aspetti giurisdizionali e amministrativi. E per l'aspetto appunto più di organizzazione del potere, dell'amministrazione, c'è ancora un vecchio libro di Spizzichino, ma non c'è nient'altro, insomma, dal punto di vista quadro generale. È anche vero che i problemi relativi al fisco e al debito pubblico, alla vendita degli uffici, all'istituzione dei monti, alla venalità degli uffici, eccetera, che come sapete è sviluppata anche nello Stato Pontificio come negli altri Stati, questi temi sono centrali per la comprensione del rapporto tra Stato Pontificio e Riforma Tridentina. Infatti, come è stato detto, alla diminuzione delle entrate spirituali derivante già nell'epoca precedente dalla politica degli Stati nazionali e poi aggravata dal distacco di molte regioni della cristianità con la Riforma, il Papato risponde dapprima con un aumento della concessione di privilegi e di spese dietro pagamento, le composizioni cosiddette della dataria. Anche qui sono tutte storie molto studiate e Iedin ha già scritto anche su questo, su che cosa poi non ha scritto è difficile dire. Poi con l'introduzione in un secondo tempo delle imposizioni fiscali permanenti sullo Stato ecclesiastico e con lo sviluppo di forme sempre più massicce e perfezionate di indebitamento pubblico, sia attraverso il moltiplicarsi delle vendite degli uffici, sia con l'istituzione a partire dal 1526 di numerosi monti, ovvero sia debiti pubblici, che ipotecano gran parte delle entrate statali. Cioè, noi, per sintetizzare, poi appunto ci sono su questo studi molto precisi, insomma, dal 1526, cui viene istituito il cosiddetto Monte della Fede, proprio in quelle circostanze di politica internazionale che esigevano dallo Stato Pontificio uno sforzo molto grande anche dal punto di vista militare, si viene sviluppando tutto un sistema di debito pubblico che ipoteca gran parte delle entrate statali, che costringe appunto a un continuo aumento della pressione fiscale. Nonostante alcune obiezioni avanzate, c'è uno studio di Litva che dubita di questo, a me sembra incontrovertibile il fatto che nell'età tridentina il peso delle entrate temporali viene a prevalere largamente nel bilancio globale della curia romana su quello delle entrate cosiddette spirituali. con la conseguenza di un rovesciamento delle posizioni precedenti. Non sono più le varie regioni d'Europa a impinguare le casse romane e a favorire la floridezza del dominio papale, ma è il piccolo Stato pontificio che per sostenere l'azione universale della Chiesa romana viene sottoposto ad una pressione fiscale che finisce per dissanguarlo e avviarlo a una crisi economica più grave di quella che investe altre regioni italiane. E quindi l'interesse del rapporto tra questo e la riforma tridentina sta in questo fatto, insomma, ecco, nel ruolo diverso che lo Stato pontificio ha tra la prima unità, tra il preconcilio e il postconcilio. È certo però che anche in questo settore il grosso del lavoro per la comprensione del rapporto tra riforma tridentina e organizzazione finanziaria della Curia Romana è ancora da compiere. Ben poco sappiamo sulla diminuzione delle entrate spirituali effettivamente derivante dalle riforme disciplinari stabilite a Trento. Ancora nel 1562 nessuno credeva nell'ambiente di Curia che qui a Trento si facesse sul serio. Cioè, c'era stato un calo in borsa, diremmo noi adesso, dei titoli degli uffici della Curia Romana, che erano precipitati. E appunto io avevo studiato tempo fa l'epistolario di un uomo d'affari milanese che aveva investito buoni capitali a Roma nell'acquisto di uffici di Curia e poi aveva visto il valore di questi titoli andare a rotoli nel giro di 2 anni tra il 61 e il 62 e l'inizio del 63. Ma la sua reazione era questa: io non ho paura del Concilio di Trento perché tanto si sa che le riforme che noi facciamo sono tutte fuoco di paglia. Le riforme, invece ho paura degli Ugonotti, quelli fanno sul serio. Se anche si perde la Francia, il papato, ecco, io voglio bene al papa, ma prima i miei soldi. Questo era il senso con cui lui svende tutto quel che era a Roma e ritira i suoi capitali a Milano e li impiega in terre della bassa pavese che gli davano solo il 3% contro il 12% degli uffici di Curia, ma erano più sicure vicino a casa sua e lui sta tranquillo così. Ma invece poi anche il Concilio di Trento finisce poi per non essere fuoco di paglia e quindi c'è da studiare concretamente questo sistema. Un po' l'ha fatto Litva per il periodo tridentino, ma credo non troppo bene. Altri temi sono proprio sul costo delle nuove iniziative del papato, della controriforma, nella ripresa dell'azione universalistica. Proprio adesso è in corso per il Concilio di Trento stesso, una ricerca di cui parlerà Alberizzo e Mazzone, ma credo che sia molto importante proprio sviluppare questa tematica. Un penultimo accenno. No, forse proprio l'ultimo. Un campo del tutto inesplorato è l'influsso esercitato dalla presenza dello Stato pontificio sulla formazione del diritto comune pontificio post-tridentino. È noto come l'attività legislativa della Chiesa e della Controriforma abbandona quasi totalmente il pluralismo che aveva caratterizzato i secoli precedenti. Qui sono gli studi di Lebrun che conoscerete, cioè su questo pluralismo delle fonti del diritto canonico, classico. Abbiamo le fonti papali, abbiamo le fonti episcopali, diocesane, i sinodi, eccetera, i concili provinciali, abbiamo gli statuti delle confraternite, abbiamo l'intreccio, una formazione, direi dal basso, di un sistema giuridico che non ha solo come protagonista il papato, ma anche, per esempio, le università, che elaborano il diritto, creano diritto. Ma queste sono cose note. Ecco, l'attività legislativa della Chiesa della Controriforma abbandona quasi totalmente il pluralismo che aveva caratterizzato i secoli precedenti. Il diritto pontificio diviene, anche per la riserva a Roma di ogni interpretazione e commento dei canoni tridentini, la fonte quasi esclusiva della legislazione, cioè abbiamo una concentrazione nella produzione del diritto. Esso tende anche ad identificarsi direttamente con l'esercizio del potere di giurisdizione, superando le distinzioni ben vive nel diritto canonico classico. Questa è una tesi di Franzen che trovo estremamente giusta, insomma. Ecco. Cosa vuol dire, insomma? Ecco, che proprio nel Medioevo, una delle caratteristiche direi fondamentali, continue, è la distanza di piani tra il piano legislativo di creazione delle norme giuridiche e il piano della loro applicazione, il piano giurisdizionale vero e proprio, ecco, dei tribunali. E questa distinzione viene meno in questo periodo. Ciò anche in base appunto alla riscoperta della teorizzazione aristotelica della società perfetta in senso monarchico, quindi in base al principio teoretico della concentrazione del potere, ma anche secondo il modello dell'assolutismo moderno, incarnato concretamente nello Stato pontificio e dominante la prassi della curia romana, delle sue congregazioni e dei suoi tribunali. Cioè, a mio avviso, non esiste soltanto un problema, diciamo, di tipo teoretico e ecclesiologico, ma esiste anche un problema relativo all'influsso della prassi curiale, dei tribunali della curia, in questo senso. E l'enorme mole di documentazione relativa a questa prassi, in particolare del Tribunale della Sacra Rota, della quale sono edite decine di migliaia di decisioni, che rappresenta una foresta ancora inesplorata. Se nell'Europa dell'età moderna, rimasta cattolica, la disciplina ecclesiastica appare sempre più egemonizzata dalla presenza dello Stato, che tende a sottrarre alla Chiesa il potere da essa precedentemente detenuto, sia con le lotte di giurisdizioni che con le concessioni concordatarie, un processo analogo, con caratteristiche diverse, sembra avvenire nello Stato pontificio, anche se qui dà luogo ad un moto in senso inverso, per il quale il diritto e l'esercizio della giurisdizione pontificia sembrano diffondersi per cerchi concentrici dal dominio temporale della Chiesa, senso ristretto, che gode di un suo statuto giuridico, all'Italia, anche questo è una tematica che va studiata, cioè è solo una sensazione, ma per l'Italia pare cominciare a esistere nell'età post-tridentina uno statuto speciale nella disciplina canonica, cioè dico l'Italia come sorvegliata speciale, ma certamente tutte, anche nelle trattazioni giuridiche per il Teatro in Veritatis e Giustizia del Cardinal De Luca, non c'è la posizione tra Stato Pontificio e il resto della cristianità, c'è lo Stato Pontificio, molte volte c'è l'Italia in cui si applicano certi tipi di controlli e poi c'è il mondo ultramontano, e anche questo appunto è un allargarsi di cerchi concentrici che volevo sottoporre alla loro attenzione, insomma, è questo tipo di cerchio che ha al centro lo Stato Pontificio. Con la crisi religiosa del secolo XVI, concludo quindi, e con il Concilio Tridentino, le due facce del potere pontificio che coesistevano nella Repubblica Cristiana Medievale, qui ritorniamo al discorso di ieri di questa dissoluzione della Repubblica come processo, diceva il Dean, graduale, insomma, che non avviene tutto in un colpo, e queste due facce sono sottoposte ad un processo di divaricazione con una spaccatura destinata ad avere una forte influenza sulla storia successiva dello Stato Pontificio e della Chiesa. In questo processo di divaricazione, però, le esigenze di tipo politico legate al dominio temporale continuano a permeare le linee d'azione del Papato nei riguardi della Chiesa universale, mentre d'altra parte le esigenze di tipo religioso condizionano la parabola dello Stato Pontificio sia nella fase ascendente della concentrazione del potere che nella fase successiva di decadenza. Infatti, mentre io affermo che questo processo di concentrazione del potere nello Stato Pontificio ha avuto un grande sviluppo, è anche vero che la clericalizzazione delle strutture statali e il peso della pressione fiscale, unitamente all'emarginazione degli intellettuali dei ceti produttivi, rendono poi impossibile, dopo questo acme che ho cercato di tratteggiare, di sviluppo statale, quel ricambio sociale, politico e ideologico della classe dirigente che pur faticosamente avviene invece nei secoli seguenti nelle altre monarchie assolute. E questa è la strada che condurrà al dominio temporale dei papi, secondo la frase consueta, a divenire il più dispotico e malgovernato Stato d'Europa. Ma questa è un'altra storia che non tocca il periodo che vogliamo, che abbiamo voluto studiare. Con queste riflessioni, che ora ho concluso, sul rapporto tra la sovranità temporale dei papi e il Concilio di Trento, ho voluto soltanto attirare l'attenzione sul momento iniziale di questa divaricazione, che è proprio a luogo, a mio avviso, nell'età tridentina, per indicare con qualche accenno la genesi degli intrecci e delle contraddizioni che si svilupperanno nell'epoca successiva. Ma anche questa, forse è l'unica cosa certa, è una storia tutta da fare ancora, quindi non è... Penso che se un calo o una calata ci è stata, come il relatore pareva promettere, informativa a parole ieri e stamattina, questo è stato solo nel senso che ci siamo spostati da nord verso sud, siamo calati in Italia e nel cuore dell'ambiente italiano. Solo in questo senso io sarei disposto ad accettare questa promessa che era stata fatta e che invece è stata invece trasesa da questa bellissima relazione così stimolante in tanti versi, e io l'ho sentita come tale perlomeno, proprio per le vie che apre e indica e segna, e così concreta, così aderente ai dati, veramente afferrabili. Ecco, rimandiamo la discussione a dopo la pausa, che penso potrà andare fino alle ore 11, 20 minuti per sapoco, no? Allora possiamo riprendere. Prima di concludere però abbiamo il dovere ancora di salutare il presidente della giunta provinciale di Trento, il Landeshauptmann di Trento, dottor Giorgio Grigoli, che è intervenuto ancora all'inizio. Sprachigen Kollegen, die da sind, etwas zu fragen, also irgendetwas zu klären ist, was nicht verstanden wurde. Ein Resümee möchte ich nicht haben, weil ich zu faul bin, erstens, und zweitens, weil ich fürchte, die Leute zu langweilen, nicht? Aber wenn irgendeine, wenn etwas, so wenn die Exigenz da ist, nicht, dann bin ich gerne als Dolmetscher bereit dazu. Ist das wirklich erwünscht von den Deutschsprachigen? Ja? Gut. Also. Herr Roger, darf ich einen Vorschlag machen? Ja. Es war sicher richtig, die Beobachtung, dass es gegen Schluss schwieriger wurde zu folgen. Aber ich glaube, das war für alle, nicht nur für die Deutschen. Und ja, aber mehr, ein Reasunter des Ganzen zu geben, ist sehr schwierig. Ja. Also, vielleicht könnte man die Schluss Ich will es mal versuchen. Ich will es mal versuchen. Ja, danke. Nach meinem Dafürhalten ist, liegt das, der große Wert des Referates von Herrn Prodi darin, dass er die Interdependenz, die Verflechtung des Kirchenstaates, seiner Politik, seiner Verwaltung mit der zentralen Kirchenverwaltung, also der römischen Kurie, herausgestellt hat. Diese Verflechtung, die sich im Laufe des 16. Jahrhunderts in der Zeit des Konzils von Trient vollzieht. Er hat begonnen mit dem mit der Episode von Bologna, wo ja der Einwand der deutschen protestantischen Reichsstände darin bestand, er hat zitiert, wenn ich mich nicht irre, und dass die protestantischen Reichsstände Bologna nicht als sicher betrachteten. In Parenthese ist das eine Illustration zu dem, was du gestern gesagt hast über Trient, nicht wahr? Über die staatsrechtliche Stellung von Trient. Aber er hat, Prodi hat, wenn ich ihn recht verstanden habe, und er soll mich korrigieren, wenn ich es falsch verstanden habe, er hat herausgestellt, dass eben der Kirchenstaat seit Julius dem Zweiten ein wirklicher Staat wird. Nicht mehr dieses Konglomerat von Principati, Colonna, Orsini, von Municipalitäten, Perugia zum Beispiel, sondern also er wird allmählich ein nicht gerade zentralisierter Staat, aber ein für unsere modernen Begriffe ein wirklicher Staat. Und das hat Folgerungen für das Konzil von Trient, weniger in seinem Verlauf als in seinen Durchführung. Prodi hat ja als besonderer Kenner der Situation im Kirchenstaat und speziell in Bologna herausgestellt, dass die Kirchenstaatsbeamten, also die Legaten, Vizelegaten, Gouvernatoren, die Bischöfe in eine harte Zucht nahmen. Das heißt, so dass die Bischöfe sagten, wir haben die Mitra, aber keinen Stab, nicht? Habe ich recht verstanden? Ja. Die Mitra, aber keinen Stab. Das heißt, die in diesem Falle die Kirchenstaatsverwaltung, also die Verwaltung eines Staates, greift außerordentlich stark ein in die kirchliche, Sphäre. Das ewige Problem Staat und Kirche wird hier in einer ganz besonderen Art und Weise abgewandelt. Einer nicht erfreulichen Art und Weise, sagen wir ruhig, abgewandelt. Aber was mir noch wichtiger erscheint, das ist, dass eben, obwohl ja auch im späten Mittelalter die kirchliche Zentralverwaltung und das Temporale nicht so streng auseinandergehalten wurden, kann man feststellen, und jetzt korrigiere mich, Prodi, wenn ich es etwas Falsches sage, dass jetzt eine noch viel engere Verflechtung der beiden ist so. Sie haben das, du hast das demonstriert an der Karriere der Nunzien. Dass die Nunzien sozusagen aus der Kirchenstaatsverwaltung häufig kommen und dann in die Nunziaturen gehen, die politische, aber eben auch kirchliche Funktionen ausübten, wie es bis zur Gegenwart ist, mit manchen Modifikationen. Und mir scheint, dass diese, diese Tatsache demonstriert an der Entwicklung des Kardinalskollegiums, das im späten Mittelalter Mitregent, kann man ruhig sagen, des Kirchenstaates und der Kirche war, und im 16. Jahrhundert nach dem Konzil von Trent, vor allen Dingen durch Sixtus V., ein Kollegium der höchsten Funktionäre der Kurie wird. Die Kardinäle des ausgehenden 16. Jahrhunderts versammeln sich nur noch selten zum Konsistorium, während doch im Mittelalter das Konsistorium also ein äußerst lebhaft funktionierendes Gremium war. Man muss die aragonesischen Berichte aus dem Ende des 13., Beginn des 14. Jahrhunderts lesen über Bonifaz den 8., aber man braucht, um zu sehen, wie heftig da die Kardinäle opponierten gegen den Papst. Aber das ist noch bis unter Paul dem 3. so gewesen, dass der Kardinal Colonna sich gegen den Papst wandte und energisch opponierte. Das hört am Ende, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf. Er hat dann auch über das Staatssekretariat gesprochen, das will ich nicht im Einzelnen sagen. Den Punkt am Schluss möchte ich noch berühren, weil das ja eines der Ergebnisse der Forschungen über die Papstfinanz meines Freundes Clemens Bauer war. Etwas, was mich auch überrascht hat. Die Prodi hat erwähnt, wie diese Briefe des Mailänder Kurialen, der sein Geld in kurialen Ämtern angelegt hatte und der die Hugenotten mehr fürchtete als das Konzil von Trient beziehungsweise dessen Reformen. Prodi hat dann gesagt, natürlich der Rückgang der Einkünfte der Kurie aus Frankreich war ein ganz schwerer Schlag für die Finanzen des Papstes. Aber er hat dann auch doch zugegeben, dass die Beschneidung der kurialen Ämter und vor allen Dingen auch der Datterie, dass die ein sehr erhebliche Einbußen in den Einkünften des Papstes aus der Universalkirche durch Palliengelder, Anaten und so weiter zur Folge hatte. Und das dann, und das war für mich seinerzeit vor 50 Jahren, als wir uns in Rom mit diesen Sachen beschäftigten, Clemens Bauer war damals so wie ich Stipendiat der Görres-Gesellschaft in Rom, dass der Kirchenstaat die Hauptlast der Ausgaben für die Regierung der Universalkirche getragen hat. Das muss man sich einmal klar machen. Das war eine äußerst schwerwiegende, folgenschwere Tatsache. Ich habe jetzt so, aber nur sehr oberflächlich versucht, die Grundgedanken des Referates von Prodi, aber wirklich sehr oberflächlich, versucht, die Grundgedanken herauszustellen. Ich wiederhole noch einmal, die Entwicklung des Kirchenstaates zu einem, wenn auch nicht im wirklichen, im wahren Sinn des Wortes, schon modernen Beamtenstaat, aber immerhin zu einem einheitlichen Staat und die Verflechtung des Kirchenstaates und seiner Verwaltung mit der Entwicklung der römischen Kurie zur Zeit und nach dem Konzil von Trient. Das die Verwaltung und Politik des Kirchenstaates auf die Gestaltung, die Umgestaltung der römischen Zentralbehörden, hat die Kongregation genannt, großen Einfluss ausgeübt hat. Ich möchte noch vielleicht zur Ergänzung nur einen Gedanken noch in die Debatte werfen und vielleicht in Form einer Frage. Muss man nicht sagen, dass dieser Einfluss des Kirchenstaates auf die Universalkirche seinerseits auch wieder beeinflusst war durch den päpstlichen kirchlichen Zentralismus? Habe ich mich richtig ausgedrückt? Vielleicht formulierst du es mal auf Italienisch. Nein, ich wollte dich bitten, vielleicht kommt es auf dasselbe. noch die letzte Bemerkung so gut zu formulieren, über die Auffassung des päpstlichen Rechtes. Ja, ja, habe ich vergessen. Ja, also sagst du es doch. Kommt das, es kommt das, dasselbe. Also, das Konzil von, ja. Das darf man wohl sagen, nicht wahr? Das Konzil von Trient hat ja übrigens anders als das Zweite Vatikanische Konzil konkrete Rechtsnormen gesetzt. Ich habe vergessen, wie viel, aber das sind also, sind, ich glaube, 80 Stellen in den Reformdekreten des Konzils von Trient, die direkt ins kanonische Recht übergegangen sind. Und das ist natürlich zentralisierend und drängt das in der, im Mittelalter ja sehr starke Partikularrecht der Kirche zurück. Das scheint mir auch. Also das Konzil von Trient selbst war ein Element der Zentralisierung des kanonischen Rechtes, wird dann weiter ausgebaut im Laufe des 16. Jahrhunderts, obwohl ja nicht zustande gekommen ist die geplante Reform des Codex Iuris Canonici, die damals schon am Ende des 16. Jahrhunderts geplant war und, wie Sie wissen, erst 1917 dann geschehen ist. Erst in unserem Jahrhundert. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich einfach vergessen habe. Aber ich würde nochmal die Frage wiederholen, die ich vorhin gesagt habe. Wird man nicht sagen müssen, dass der sehr starke Papalismus, nennen wir das einmal, der sehr starke Einfluss des der Summa de Ecclesia des Kardinals Torquemada, der ja auch im Konzil so stark war und eigentlich die Ursache der Krisen der letzten Tagungsperiode war, dass die kurialistischen Bischöfe in Trient eben eine unmögliche, müssen wir heute mit aller Deutlichkeit sagen, ich habe es aber auch schon gesagt vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, eine unmögliche Auffassung von der Stellung der Bischöfe auf dem Konzil hatten. Nach Torquemada sind die Bischöfe auf dem Konzil eigentlich nur die Beauftragten des Papstes, nicht krafteigenen episkopalen Rechtes. Und diese Auffassung hat in Trient die großen Konflikte hervorgerufen, sei es über die Residenzpflicht der Bischöfe, sei es dann bei der Debatte über das Ordo-Dekret, das geht über das Weihe Sakrament. Eine Krise, die zweite große Krise, die ja beinahe zum Scheitern des Konzils, zum Auseinanderfallen des Konzils geführt hätte. Das ist eine Frage, die ich an Prodi richten müssen, ob hier nicht auch eine umgekehrte Einwirkung, nicht wahr, des Papalismus vielleicht auf den Kirchenstaat vorliegt. Wenn du sagst nein, na gut, dann bin ich zufrieden, aber das ist ganz sicher, ja. Cioè, io dico soltanto che non l'ho esaminato nella relazione perché mi sono tenuto al problema dello Stato Pontificio ma è importante proprio, credo anche proprio per capire lo Stato Pontificio, l'aspetto più propriamente teoretico che io, ecclesiologico, cioè tutto lo sviluppo della dottrina del papato in senso monarchico e quindi anche esattamente a livello di governo della Chiesa universale, quindi perfettamente giusto. Se permetto, vorrei fare io due osservazioni dopo, penso che non mi prevarrò più della mia posizione, no? L'una riguarda il confronto tra quello che ieri ho cercato di esporre, insomma, guardando la storia trentina, e quello che vedo con grande interesse succedere nello Stato Pontificio. Ho l'impressione veramente che da noi, pur essendo uno Stato ecclesiastico, il Principato Vescovile di Trento, questa tendenza ad una tale concentrazione e compenetrazione di poteri è stata evitata fino alla fine, fino al tramonto dello Stato ecclesiastico nel 1803. È vero, lo Stato ecclesiastico di Trento non è mai diventato uno Stato in senso moderno, è rimasto in condizioni pre-moderne, in sostanza, no? Dove il decentralismo di tipo feudale, perlomeno, e questa distribuzione dei poteri non è mai stata del tutto superata. Poi il conflitto con i tirolesi, il tiro alla fune continuo tra i vari corpi che operano nello Stato è anche una causa di questo. Poi il fatto che i vescovi di Trento fino alla fine del Settecento non sono grandi curatori d'anime, forse anche ha influito in questo. L'ufficio spirituale aveva una sua autonomia, operava per conto suo, andava per le sue strade, e insomma così erano più di uno a interloquire. E anche dove le cose andavano tra vescovi, dovevano andare con molta cautela. Ricordo che, per esempio, la parrocchia di Pergine, che è qui vicina, dominio spirituale del dominio del vescovo di Trento, è invece sotto l'associazione spirituale del vescovo di Feltre. Il vescovo di Feltre viene, fa visite pastorali, condanna sacerdoti per malcostume, eccetera, e deve chiedere il braccio secolare del suo collega vescovo di Trento per intervenire, altrimenti non può far niente. Questo pluralismo arcaico, se vogliamo, ho l'impressione che ha evitato nel nostro caso proprio questa concentrazione che, almeno io mi domando e domando ai qui presenti conoscitori della storia trentina, ecco, se questo può venire considerato come una caratteristica della, un po' della nostra storia. E l'altro è una domanda, ricordo così di lontano, a riguardo dell'ultimo punto, appunto, di questa trasformazione del diritto pontificio quasi in una situazione che non è neanche più di diritto, è di esercizio di una giurisdizione dove, insomma, l'autorità ordina, no? Ricordo un libro che Iedin certamente conosce, mi pare che è Baumgartner, che parla male o bene dei gesuiti a questo riguardo e evidenzia come i gesuiti... Sempre male! Come i gesuiti hanno fatto una rivoluzione nel concetto stesso del diritto in quanto norma costitutiva dell'ordine religioso come tale. Cioè gli ordini precedenti avevano, se ti ricordo bene, un vero diritto in base al quale, insomma, il membro dell'ordine poteva anche far valere un proprio diritto, mentre la regola dei gesuiti ha dato un peso tale all'autorità del generale di fronte alla quale un vero procedimento processuale che fa valere un diritto in forma contraddittoria non aveva più spazio. E siccome nella Controriforma, in tutto questo periodo, i gesuiti hanno una loro, certamente una loro portata, mi chiedo se sono stati causa o sono stati effetto di questo, anche loro, di questo modo di svilupparsi delle cose. Bene, brevemente poi lascio la parola magari a altri che possono meglio di me. Per Trento, appunto, la situazione, credo che tu abbia detto bene, di tipo arcaico, direi, no? Cioè questo tipo di pluralismo. Io mi ero interessato, quando corre da Bologna, ma adesso non ho qui con me i dati, al problema del ruolo politico del capitolo dei canonici della cattedrale di Trento nel 600. E quello è un punto in cui queste contraddizioni emergono, anche se in modo ambiguo, cioè il capitolo è solo per il governo spirituale o è anche per il governo temporale? Ma corrisponde alla questo corrisponde alla Reichskirche. Questa è una discussione che in Trento tra il 1640, mi pare, il 1660 è piuttosto vivace, ecco, ma lascio la parola ai trentini su questo. Ecco, per il secondo, certamente, questo tipo di impostazione, diciamo, di tipo monarchico, insomma, che sia anche dal punto di vista dottrinale, come diceva Iedin, nel governo della Chiesa universale, invece anche gli ordini religiosi, ed è collegato certamente con questo, cioè, la mancanza appunto di statuti, insomma, in difesa anche dei diritti soggettivi è proprio tipico, direi, di tutto il sistema, di tutte le sue componenti, insomma, quindi vi siete, ringrazio. Non so se... Allora, altri che chiedono? Professor Cossini? Io sì? Dire che bisogna concordare con questa presentazione delle particolarità che ha avuto la storia trentina e aggiungere semmai questo, che proprio nel momento in cui ero qui all'interno dell'ancora esistente Principato di Trento, incominciava a farsi strada una organizzazione di tipo moderno, di Stato moderno, e cioè all'epoca di Maria Teresa e di Giuseppe II, c'è stata anche una resistenza notevolissima proprio da parte del Principato, anche a livello popolare, per l'introduzione specialmente delle riforme amministrative e fiscali, e che non ha potuto avvenire il rivolgimento del Principato di Vescovile di Trento in senso di Stato moderno, perché quando con queste riforme se n'era iniziato, subito dopo, nel 1803 di fatto, è scomparso. Quanto alla questione del capitolo, fuori un po' dal mio settore di studi, ma è una storia che andrebbe veramente rifatta tutta quanta, vero? Perché del fatto che il capitolo avesse anche notevole importanza sul piano politico e che fosse un organo anche un organo di governo o temporale, oltre che individuale, se ne ha proprio la comprova. Primo, nelle lotte interne per la nomina dei membri, specialmente per il contratto etnico nazionale tra membri di lingua italiana e membri di lingua tedesca e membri che rappresentavano pertanto una comunità politica tirolese e imperiale. E in secondo luogo, perché non dobbiamo dimenticarci che fino alla UBI, che mi pare del 23, però è del 1823, come ricordava ieri Monsignor Roger, il capitolo era detentore del potere per la designazione del vescovo stesso. Corpo elettorale, non era il corpo elettorale. Però accanto a questo direi che le stesse competenze del capitolo sono ben delimitate. Il capitolo appunto è corpo elettorale del sovrano, questo, però non può intervenire, cioè è organo di tutela di tutti gli atti di amministrazione straordinaria, quindi non può alienare diritti temporali il vescovo senza un consenso capitolare, in questa forma condiziona. Al di là di questo, anche nel governo spirituale, il capitolo deve gestire i suoi diritti e il vescovo gestisce i suoi. E sono piuttosto gelosamente sulla difesa dei reciproci diritti. Cioè, il capitolo ha alcune parrocchie che sono sue, quindi di quelle nomina lui i parroci, è da far suo, non li nomina il vescovo. Ma sono una minoranza di parrocchie. Poi il capitolo ha come proprietà immunitaria tre o quattro zone che sono di sua giurisdizione temporale, lì nomina giudice il capitolo, no? Ma basta, qui finisce la competenza diretta del capitolo, non può certo pretendere di nominare parroci di altre regioni o così, no? Abbastanza circoscritta e fa parte di nuovo di quel frammentarismo, di quel decentramento. Professor Lilmi. Vorrei sottolineare molto brevemente l'ultima osservazione di Giulini. Se mi pare un netto contrasto non solo fra lo Stato Pontificio e lo Stato Vescovo di Trento, ma un netto contrasto fra lo Stato Pontificio e tutti gli altri stati ecclesiastici che esistevano tuttora, perché nell'impero in tutte queste diocesi, in tutti questi principati vescovili, è rimasto quel regime un po' arcaico, con le interferenze del capitolo e della nobiltà. L'assolutismo non ha mai potuto essere realizzato nelle chiese dell'impero e anche questi arcivescovi, principi elettori che volevano nel Settecento realizzare le riforme, eccetera, trovavano tanti ostacoli proprio a causa della antica Costituzione che dava ai capitoli, ai canonici, tanti diritti di interferire anche nelle decisioni politiche. Esatto. Sempre su questo ordine di temi. possa ancora dire qualche cosa. Da un lato mi sembra che tutta la relazione di Prodi sia estremamente suggestiva proprio in questo, nel sottolineare e nel puntualizzare il rovesciamento del rapporto tra potere spirituale e potere temporale all'interno della Chiesa, non solo dello Stato, della Chiesa, direi della Chiesa. E da questo punto di vista, con le osservazioni che facevano sia Roger prima sia adesso Lil sugli altri principati ecclesiastici, credo che in questa tematica l'applicazione delle categorie storiografiche dei rapporti tra Stato e Chiesa sia estremamente problematica, quasi impossibile. Mentre osservazioni come quelle che faceva ieri mi sembrano estremamente pertinenti, non perché nella questione dei rapporti tra Stato e Chiesa non ci siano fattori di carattere ideologico, ma perché il richiamo alle teorizzazioni particolarmente spinte della monarchia pontificia, e non solo certamente Torquemada, ma anche i suoi predecessori, anche se Torquemada incide direttamente sulla epoca tridentina, aiutano secondo me a porre il problema che io vedrei così, e sul quale formulerei la domanda proprio. Se cioè il progressivo modificarsi del rapporto e dell'equilibrio tra potere spirituale e potere temporale all'interno della Chiesa, così che, mi pare di condividere quel che lui dice con qualche riserva, ma insomma che l'inizio si potrebbe fissare nella rifondazione che paradossalmente l'impresa di Cesare Borgia causa dello Stato Pontificio. A ben riflettere, se Cesare Borgia avesse avuto successo, Porta Pia era anticipato di 4 secoli e mezzo. In realtà va come vanno le cose, come sappiamo, e lo Stato Pontificio resta, e non solo resta, ma viene rifondato radicalmente proprio in questo senso, e cioè che non è più, mi pare che mai come oggi io vedo la astoricità delle tesi di Pio IX a difesa del potere temporale. Il potere temporale dopo Cesare Borgia non è più la garanzia del potere spirituale, ma è tendenzialmente la sopraffazione del potere spirituale. Ecco la domanda: se questa è la linea che a me è parso di vedere emergere dalle osservazioni di, la domanda è questa: forse gli scatti progressivi di questo spostamento di rapporti e perciò della sempre più chiara sopraffazione del potere temporale sul potere spirituale della Chiesa non sono determinati, non poco, certamente in modo esclusivo, ma non poco, dalla impossibilità del papato di realizzare con pienezza in sede spirituale la propria monarchia. Perché quel che ha detto Iedine è vero e va provato fino in fondo. A Trento il concilio respinge le tesi di Torquemada, respinge le tesi di Cayetano, respinge tutte le tesi estremiste sulla monarchia pontificia. E questo non è il primo e non sarà l'ultimo degli scacchi del papato sul piano spirituale. Ecco, allora non è forse questa serie di questa impossibilità per il papato di far passare sul piano della struttura del potere spirituale la propria monarchia assoluta, che sposta, per così dire, fa fare uno spostamento di attenzione, di interesse del papato sul piano invece del potere temporale, dove diventa infinitamente più facile e addirittura sembra anticipatore, anticipatrice, una struttura di tipo fortemente accentrato e monarchico. Questo aiuterebbe anche a collocare in una certa cornice quelle osservazioni molto interessanti, suggestive, che Prodi faceva a proposito del controeffetto, per così dire, di alcune riforme tridentine, quella del collegio, quella della curia, che viste dal punto di vista appunto dello Stato Pontificio hanno un effetto di accelerare e facilitare l'accentramento e la sopraffazione, l'accentramento della struttura temporale e la sopraffazione rispetto a quella spirituale. Ecco, la domanda è questa: in che misura la frustrazione delle istanze accentratrici del potere spirituale ha avuto l'effetto di accelerare il processo di assolutizzazione del potere temporale e, per così dire, di portare il papato della Controriforma a giocare molto, non dico tutto, ma certamente molto, sul proprio potere temporale, sino a questa paradossale posizione di Pio IX che in buona fede, io credo, non so se li condivida, in buona fede sostiene questa tesi assurda che il potere temporale va conservato perché è l'unico scudo del potere spirituale. Che questa memoria arcaica e rovesciata di una situazione in cui invece ormai il potere temporale aveva funzionato da secoli come sopraffazione del potere spirituale. Ma è una domanda molto grossa e è difficile rispondere adeguatamente. Io mi limito, credo, a dire questo, che credo anch'io sia vero proprio questa, sostanzialmente questa linea, la inserirei nel processo di secolarizzazione di tutta la Repubblica Cristiana, e tornavo al discorso di ieri, però, cioè è difficile a mio avviso distinguere nettamente le varie fasi di questo processo e di distinguere nettamente anche appunto, per esempio, potere spirituale da potere temporale fino a un certo punto, insomma. Ora, certamente, a mio avviso, è proprio tutti i discorsi che si facevano ieri sul venir meno della Repubblica Cristiana che evidenzia, e certo che è la frustrazione, credo, cioè, è forse la frustrazione della Chiesa dell'età moderna, insomma, questo venir meno di un certo tipo di simbiosi che in qualche modo costringe a, almeno costringe, questa è poi la scelta storica che si verifica concretamente, il papato a trincerarsi all'interno del potere temporale e quindi a inserirsi nel gioco delle potenze europee in quanto anche stato temporale. Quanto poi questo sia appunto misero, a parte il processo interno dello Stato Pontificio, il declino, è già chiaro nel Settecento, dove il papato non conta più niente all'interno del gioco delle potenze europee, insomma, e quindi rimane così questo stato temporale già in qualche modo anchilosato, così come espressione, non so come dire, insomma, ecco, rigida, ecco, di qualcosa di passato. Però credo appunto che questo sia il punto terminale di un processo in cui attraverso i concordati, attraverso i rapporti diplomatici, eccetera, nello sfaldamento della Repubblica Cristiana, il papato cerca di conservare una fetta, insomma, del suo potere, insomma, ecco. Non è una risposta questa, capisco bene. Il professor Lutz. Wir müssen Herrn Brody sehr dankbar sein für dieses Panorama und wir müssen ihm herzlich wünschen, dass er selbst die Kraft hat und gute Mitarbeiter findet, um dieses Forschungsprogramm, was er hier weithin vorgelegt wurde und dessen Richtung ich für außerordentlich fruchtbar halte, auf diesem Forschungsprogramm weiter fortzufahren. Im Rahmen dessen, was also hier in der Diskussion möglich ist, möchte ich mich auch mit einer Frage anschließen, von eher allgemeinem Charakter. Wir haben ja ein gewisses Gegenstück zu dem Kirchenstaat, der sich nach der tridentinischen Reform wandelt, haben wir in Genf. Also Genf, das Gegenstück, nicht bei Genf, natürlich viel kleiner und ein Stadtstaat, aber doch in einer irgendwie vergleichbaren Weise, geprägt von einem religiös-ethischen Erneuerungswillen, wobei im Falle von Genf ja sehr deutlich wird, der Modellcharakter, also Calvin und seine Nachfolger und die ganzen Mitarbeiter, strengen sich ja ungeheuer an, diesen Stadtstaat Genf, 60er Jahren ab, den Charakter also eines Modells, ein Modell einer Civitas Christiana, unter kalvinischen Vorzeichen, zu geben. Im Bereich des Kirchenstaates hat es, aber da weiß ich viel zu wenig, wohl auch vereinzelte Tendenzen in diese Richtung gegeben. Das asketische Ideal, etwa in der Anwendung auf das Kardinalskollegium. Aber mich würde interessieren, Prodi, ob hier auf einer größeren Skala im Bereich des Kirchenstaates nach Trient vergleichbare Anstrengungen zu finden sind. Also hier Rom und im weiteren Sinne Kirche also als Modell einer Civitas Christiana. La suggestione di questo paragone è molto grossa, ecco. Non so se appunto dal punto di vista dello Stato moderno questo rapporto, questo confronto possa portare molto avanti, insomma, ecco. Nella misura in cui lo statuto di cittadino di Ginevra non pone dal punto di vista delle strutture amministrative, dal punto di vista dell'organizzazione del corpo burocratico, eccetera, problemi, almeno io li ignoro, insomma, ecco, analoghi. Si tratta forse piuttosto del assetto generale della vita, anche culturale. Ah, beh, sì, no, sì, sociale, sì, sì, no, no, io adesso pensavo proprio all'aspetto della gestione del potere, ecco. Entrano anche in questione del potere, anche in questione della situazione politica, sociale e economica, perché si. Per noi naturalmente si pone la domanda se una tale depressione sociale e economica, quale arriva in seguito a cose, corrisponde a una condizio umana, eccetera, eccetera, anche in termini di diritto naturale, eccetera. Ma queste sono domande secondarie, ma centrale. Prendiamo per il paragone, insomma, l'assetto generale della vita sociale, culturale, eccetera. Io dico soltanto che sarebbe molto bello, ecco, portare avanti questo studio comparato. Ieri, da voi a Basar, also nettamente, würde ich sagen, eine solche Reglementierung des bürgerlichen täglichen Lebens, wie sie in Genf durchgeführt wurde, die war im Kirchenstaat trotz Gegenreform, trotz römischer Inquisition nicht vorhanden. Ne? Denn man kann das ja ablesen an den Deutschen, die nach Rom kamen, etwa zum Jubiläum von 1600 und in den folgenden Jahren, die haben nicht den Druck verspürt, der in Genf vorhanden war. Und Verzeihen Sie, dass ich das so sage. Also ich bin eigentlich ganz froh darüber. Ja, das ist eine andere Frage. Ich bin eigentlich ganz froh darüber, nicht? Dass dieser Kirchenstaat, sehen wir einmal jetzt ab von der Tätigkeit der römischen Inquisition, dass er doch sehr viel liberaler war als der Genfer. Die Genfer Civitas Christiana. Darf ich schnell einen Satz? Es stellt sich natürlich die Frage, ob das in Rom und im Kirchenstaat so war, weil man es so wollte, oder ob es so war, obwohl Tendenzen der Reglementierung vorhanden waren, die sich nur nicht durchgesetzt haben. Ja. Das Letzte würde ich bejahen. Denn also Paul IV. Und bis zu einem gewissen Grade auch sein Schüler Pius V., die wollten ja ein wesentlich schärferes, moralisches Regiment im Kirchenstaat. Und in Rom, vor allen Dingen in Rom selbst haben. Nicht? Das darf man wohl ohne zu fürchten zu müssen, dass man da ganz viel geht, sagen. Dass Tendenzen vorhanden waren, ja, aber es hat doch, ich glaube eben nicht, dass bei den Päpsten deren Personalität, deren Persönlichkeiten ja sehr wechselten, dass da ein solcher durchgehender Wille vorhanden war. Für Gregor XIII. Kann man das ohne Schwierigkeiten sagen, nicht? Also ohne Einschränkungen sagen, Gregor XIII. Sogar auch noch für Sixtus V. Clemens VIII. Ist ja da etwas schärfer, nicht wahr? Kann man an vielen Einzelheiten sehen. Aber ich würde sagen, ich würde Ihre Frage, entschuldige, Mori, dass ich so in dein Gebiet eingreife, aber ich würde sagen, ein solcher Parallelismus zwischen Kirchenstaat und Genf existiert nicht. In dieser Hinsicht. Reicht das? Ja, ich wollte nur sagen, war nicht die Verfassung eigentlich in Genf gerade eine ganz andere und das Verhältnis von Rat und Kirche ganz anders als im Kirchenstaat, da ja doch in Genf gerade eigentlich bewusst zwischen dem Rat und der Kirche getrennt wurde, dadurch, dass Calvin ja eben nur als Mitglied des Rates, aber nicht als oberster Mann der Kirche, den es ja auch nicht gab, seine Gesetze durchgebracht hat. War doch mehr formal, die Unterscheidung. In Wirklichkeit regierte der Wille Calvins, nicht? Obwohl er formal, genauso ähnlich wie Zwingli und in höherem Maße als Zwingli in Zürich, obwohl er formell nicht der Leiter des Staates war, nicht? Ich wollte auch gar nicht auf die Verfassung hingebracht, sondern das Tertium Comparationis lag bei mir in der Frage nach einer Umformung, nach einer also christlich reformierenden Umformung der allgemeinen Lebensbedingungen und Lebensverhältnisse. Und dass es dazu auf katholischer Seite immer wieder und überall und in verschiedenen Bedingungen Ansätze gegeben hat, das wissen wir ja alle. Auch zum Beispiel im Kirchenpius der Fünfte, nicht wahr? Etwa der Ansatz dazu, die Lebensführung der Kardinäle, die Villenbauten, also den Aufwand, den Luxus der Kardinäle, nicht wahr, zu beschneiden und dieses. Ich würde also gerne in der Richtung noch mehr wissen und das asketische Ideal in der politisch-sozialen Vollstreckung nach dem Konzil von Trient. Aber ich glaube, man weiß sehr wenig darüber. Naja, manches ist bei Delimont natürlich zu finden, nicht? Bei Delimont ist manches zu finden, schon, aber Però i parallelismi si devono cercare in altre direzioni, non nella direzione dello Stato della Chiesa, cioè dettativi del Paraguay, in altre, ma mi sembra che applicare questa immagine ginevrina allo Stato della Chiesa, per quel che so io, sia assolutamente impossibile. Herr Bosbach. Mein Fachwirt etwas von dem Problem hat mit dem Weg. Laut bitte. Lass mich und laut. Was mir nicht ganz klar ist, ist, was steht hinter diesen Zentralisierungsbestrebungen im Kirchenstaat? Was ist das Ziel? Ist es einfach die Bewahrung dessen, was besteht? Oder ist es auch das Bestreben, die Effektivität des Kirchenstaates und damit seine Wirkung auch außerhalb Europa hinein zu erhöhen? Die zweite Alternative habe ich nicht gut gefasst. Ist es einfach das Bewahren des Bestehens, was im Vordergrund steht, oder soll doch die Effektivität des Kirchenstaates, der Kurie, in der Leitung eben der Gesamtkirche verstanden erhöht werden? Ja, ja, das habe ich verstanden. Ma io non vedrei molto separati questi due aspetti, insomma, ecco, cioè, a mio avviso, sono proprio anche motivi, per esempio, di ordine fiscale, di ordine di organizzazione amministrativa, burocratica, eccetera, che portano dall'affermazione del centralismo interno all'azione di sostenimento dell'azione universale del papato. Cioè non vedo un'alternativa vera e propria, insomma. Come d'altra parte, appunto, sono le spinte all'azione universale del papato che portano a un forte grado di burocratizzazione, di intervento dello Stato all'interno. Io vedrei un processo più dialettico che non di contrapposizione, è chiaro? Sì, sì. Prego, dico il nome. Mazzone. Sì, anch'io volevo fare una domanda. Parla anche dei suoi studi. Sì, volevo fare una domanda anch'io al professor Prodi sulla questione, che secondo me è molto stimolante, così come è stata posta, del modificarsi del peso delle entrate temporali rispetto alle entrate spirituali nello Stato della Chiesa, o forse per portare ancora più avanti il discorso, del ricorso a un mercato del denaro temporale in maniera sempre maggiore rispetto al ricorso al mercato del denaro spirituale. E mi sembra appunto che sia estremamente interessante la istituzione del debito pubblico e del Monte della Fede, in particolare nel 526. Sia ben chiaro che non è nulla di nuovo, in assoluto, in termini assoluti, nulla di nuovo, quando ad esempio a Firenze già da molto tempo era in atto un ricorso al debito pubblico, e probabilmente la presenza di un Papa fiorentino, di un Papa Medici, non è estranea alla introduzione anche in Roma di questo tipo di mondo. Quello che però, ecco, io volevo chiedere, e vengo alla domanda, è questo: come reagisce di fronte a questa introduzione di nuovi strumenti, a questo modificarsi del rapporto tra temporale e spirituale, come reagisce, ecco, il vecchio personale burocratico? Cioè, emerge una consapevolezza che si sta sviluppando qualcosa di nuovo, e nel corso di questi anni, se si sviluppi all'interno dell'amministrazione burocratica dello Stato della Chiesa una una teoria propria dell'ufficio, una teoria propria della burocrazia e dell'utilizzo di questi nuovi strumenti, oppure se vengono invece mutuati, come ad esempio forse nel caso del Monte della Fede, senza che si sovrappongano però impalcature teoriche diverse, nuove. Ecco, io non so se riesco a rispondere in tutto. Questo mutamento del rapporto tra entrate temporali e entrate spirituali anche qui non può essere segnato con uno spartiacque netto. Questo mi pare la prima cosa. Prendiamo la dataria, che è l'organo che si era sviluppato di più dal punto di vista finanziario nel corso del 400, che assume un'importanza fondamentale nella prima metà del 500. Le entrate della dataria sono sostanzialmente di due tipi: quelle derivanti dalle composizioni, cioè da queste concessioni, eccetera, dietro pagamento di tasse, e quelle derivanti dalla vendita degli uffici. Ecco. Ora, quando analizziamo concretamente, noi vediamo che non è possibile distinguere tra entrate spirituali e entrate temporali. Le composizioni, vabbè, sono entrate spirituali nel senso classico e è abbastanza facile. Le entrate invece derivanti dalla vendita degli uffici rappresentano già una formula assolutamente mista, in cui è impossibile distinguere quegli uffici che sono per esempio garantiti sulle dogane da altri uffici invece che sono garantiti dalle entrate della cancelleria o da altre entrate più propriamente derivanti dall'esercizio di poteri sulla Chiesa universale. Ecco, quindi è proprio lo sviluppo del monte, prima della vendita degli uffici e poi dei monti, che determina questo intreccio e la nascita appunto di un debito pubblico che non è più né spirituale né temporale sostanzialmente, finisce per pesare sulla curia romana e, venendo meno poi le entrate derivanti dall'altra parte della cristianità, finisce per costituire un gravame molto forte sullo Stato pontificio. Ma anche questo è da analizzare come processo. Ecco. Certamente in questo senso il Monte della Fede o gli altri monti che si accendono ogni decennio quasi nello Stato pontificio non sono una novità. La novità è che a Roma proprio la posizione ancora centrale del papato in tanti sensi permette a loro un'espansione quantitativa e determina questi tipi di riflessi di cui dicevamo. Ecco. Come tecnica rappresentano certamente una innovazione nella loro applicazione continua, proprio perché permetteranno poi a poco di superare il problema della venalità degli uffici come unica forma di debito pubblico, insomma, perché il passaggio dagli uffici ai monti rappresenta proprio uno sviluppo tecnico estremamente importante, che però appunto durerà ancora moltissimo, insomma. Ecco. Da questo punto di vista si può dire anche per il personale burocratico che, anche se non esiste una teorizzazione, a mio avviso le teorizzazioni nascono soltanto alla fine del secolo, insomma, cominciamo un po' da Botero sostanzialmente, il suo discorso sullo stato della Chiesa, eccetera, e andare avanti ai grandi trattatisti del 600. Nel 500 ancora mi pare che questa coscienza non ci sia, e invece sia tutto da ricercare nella prassi, cioè gli studi andrebbero fatti proprio sulle carriere dei singoli curiati, cioè anche per esempio il ruolo che hanno avuto nelle promozioni cardinalizie della seconda metà del 500 la posizione occupata in curia dal neopromosso è un tema molto importante. Cioè Sisto V viene per esempio accusato di promuovere cardinali soltanto per rendere vacanti gli uffici da questi ricoperti nell'ambito della curia. Questo, per esempio, è un certamente stato, anche se non esiste un studio che io sappia su questo, un motivo di accelerazione di quello che diceva prima della burocratizzazione del collegio cardinalizio, cioè il fatto che i cardinali sono molto spesso proprio tratti da questo ambiente dell'amministrazione, insomma, per cui la loro promozione significava rendere disponibile per il Papa la determinata somma del prezzo del loro ufficio, insomma. E se, d'altra parte, abbiamo anche l'inserzione all'interno della burocrazia delle grandi famiglie dei banchieri, i figli, eccetera, insomma, sono tutte famiglie che si inseriscono nell'ambito della burocrazia pontificia, cioè non, nella situazione precedente potevano limitarsi a fornire prestiti dall'esterno. Ecco, nella situazione diciamo post-tridentina occupano dall'interno i posti dell'amministrazione, anche questo è un mutamento nel personale burocratico che dovrebbe essere molto interessante da approfondire, insomma. Quindi a mio avviso nasce come sempre prima una nuova burocrazia, insomma, ecco, che poi si teorizzerà nel corso del Seicento, direi la prima metà del Seicento, ecco, delle grandi trattazioni, insomma, di questo tipo. Posso fare una domanda dell'ignoranza? Iedin ci diceva qualche volta che ognuno scopre occasionalmente di avere degli abissi di vuoto dove nessuno penserebbe, cioè su questi monti e sul loro funzionamento potreste dirmi qualche cosa, in due parole così, tipo di congegno? Ma è molto semplice, cioè il lancio di un prestito pubblico garantito su determinate entrate. Sulla base di azioni, di obbligazioni, sì, o come? Corrispondono perfettamente ai nostri titoli del tesoro. Guarda. Insomma, si sono perfezionati il meccanismo, ma non c'è la minima. Ecco, possono essere. Cioè, un monte è una emissione di obbligazioni ancorate su. A determinate entrate dello Stato, alle dogane di Roma, alla dogana di Ancona, o alle tasse su determinati. E al patrimonio. Bene. Al grano, cioè, tutto, cioè, naturalmente questo significa ipotecare quelle entrate per un numero invece che conferirle a uno che ne faceva l'esattore, eccetera. No, è diverso. È la funzione adesso, no, domanda di rapporto relativo col vecchio sistema di questo. No, non è un problema di tecnica di esazione fiscale, ma è un problema di ipoteca delle entrate. Le dogane di Roma ti potevano rendere 50.000 scudi all'anno, tu hai bisogno di 500.000 scudi, cioè fai un monte di 500.000 scudi sulle dogane di Roma e tu hai la somma subito, perché i banchieri te l'anticipano. I banchieri poi, che a loro volta rivendevano questi luoghi di monte, cosiddetti, i luoghi di monte corrispondevano proprio ai buoni del tesoro, insomma. Azioni. Obbligazioni. Naturalmente poi nella seconda metà del Cinquecento questo tipo di, io non è che sia un tecnico di storia del credito, insomma, ecco, di debito pubblico si diffonde anche in Spagna, eccetera. E per esempio in Spagna abbiamo la classica manovra di Filippo II di abbassare il tasso di reddito, cioè dopo aver venduto questi monti al 12% te la abbassava all'8% e tutti erano. E questa è una cosa che si ripete molte volte, lo Stato Pontificio in questo è abbastanza galantuomo. No, abbastanza galantuomo. Ci sono alcune manovre, ma insomma non. Ha domandato la parola al dottor Miele, mi pare. Sì. Vorrei porre al professor Prodi una domanda che riguarda un tema forse collaterale rispetto a quello dal trattato Stato Pontificio e il Concilio di Trento, un tema che mi ha ristretto rispetto al titolo che sembrava un po' più generale, giustamente, che in questi casi non si può andare troppo, non si può allargare troppo. E vorrei scendere un po', direi ancora di più, per usare il linguaggio di Monsignor Roger. Nell'ambito della sovranità temporale rientrava anche l'altra sovranità feudale sul Regno di Napoli, almeno secondo le pretese della Santa Sede. venendo di Napoli, tante volte, anche se non teoricamente, nella prassi diventava una specie di prolungamento dello stato pontificio. Ora, io chiedo, risulta per caso che l'esercizio di questa sovranità in questo periodo ha complicato, ha appesantito e lo svolgimento e anche la stessa applicazione del Concilio di Trento, a parte naturalmente le solite limitazioni poste ai vescovi per partecipare al Concilio, ciò che è capitato anche a me altrove. La cosa mi pare tanto più importante, e qui mi rivolgo anche al professor Luzzi, potrebbe rispondere, se noi pensiamo che in questo periodo è sovrano Carlo V e poi Filippo II, e che per un lungo periodo c'è a Napoli come vicere il Toledo, che non so, diciamo, molto del suo potere assolutistico. Forse io rimbalzo la palla al professor Lutz subito. Ecco, per quel che so, il problema non ha avuto un peso effettivo, insomma, ecco, nella politica papale. Avrebbe la Santa Sede in questo caso forse ha mollato un po' proprio per essere più libera di esercitare altrove. No, secondo me appunto questo distacco, se vogliamo prendere le distanze, è contemporaneo e completamente innestato nel processo di consolidamento dello Stato, nella delimitazione territoriale più nitida e precisa, cioè sono processi che sono si equivalgono, cioè, nella misura in cui lo Stato Pontificio si afferma come principato e nella misura in cui tende ad annullare al proprio interno, appunto, specialmente attraverso la politica di Gregorio XIII, da Pio V, dalla scuola del non includendo di Pio V, quindi così nel 68 mi pare, con la storia di Gregorio XIII che continua questo processo di lotta contro la feudalità interna, dico tanto più tendono a perdere di rilievo, anche se rimangono poi dal punto di vista così di costume, di tradizioni, certe condizioni per secoli, però politicamente perde rilievo, per quel che ne so. Ma è il contrario, proprio il contrario. Perché questa investitura che deve dare il Papa l'uomo re in Spagna per Napoli e Sicilia è una cosa che non si può negare. Viene detto chiaramente in Curia, per esempio nel caso di Filippo II, lui è diventato re di Napoli all'occasione del matrimonio con Maria d'Inghilterra. La Curia scrive: ciascuno sa che questa investitura per Napoli non si poteva negare, era proprio una formalità. Naturalmente, come altre formalità, dava sempre l'occasione di litigare anche su un livello molto, molto alto. Monarchia sicula era tutta una cosa tra chiesa e tale, ma per la concreta situazione politica, io direi, era il contrario. Lo Stato Pontificio, non so se provi anche, lo Stato Pontificio dopo la pace di Cato Cambresi era in certo modo un po' dentro il sistema spagnolo, il sistema della egemonia totale della Spagna sulla penisola d'Italia, da una parte Napoli, dall'altra parte del nuovo creato Stato dei Presidi, poi la Toscana, eccetera, poi Milano, eccetera. Dunque, anche nella politica europea dopo il Concilio di Trento non c'era la possibilità del Papato di liberarsi un po' di questa tutela, data la crisi fortissima dello Stato francese, verso i Huguenotti. E solamente verso la fine del Cinquecento, con Enrico IV, questo è un processo molto interessante, per il papato ricomincia un po' la possibilità di rilanciare. Diciamo, questa tutela spagnola sul stato ecclesiastico, questa è una cosa da approfondire, forse ha aiutato molto al papato in quel processo interno di concentramento, di aumento del potere centrale. Perfettamente d'accordo, sì, sì. Infatti la soluzione di Enrico IV nel 1598 diventa proprio una battaglia anche politica all'interno dello Stato Pontificio, in questo senso. Meine Frage zur inneren Entwicklung, zur sozialen Entwicklung, Kirchenstatus, damit in ganz Mittelitalien. Wie hat der kirchenstaatliche Adel auf diese Entmachtung reagiert, von der im Vortrag gesprochen wurde? Hat er versucht, auf andere Weise Einfluss zu bekommen? Hat er neue Aktivitäten entwickelt? Oder ist er sofort zu jenem grundverzehrenden Hofadel geworden, jenem seine Grundrenten verzehrenden Hofadel, der dann nur die spätere Entwicklung im Kirchenstaat mitbestimmt hat? Also ein Adel, der keine Initiativen mehr entwickelt hat. Ich darf mich dazu noch eine Zusatzfrage stellen. Mich interessiert die Reaktion auch in anderen Bevölkerungsschichten, ob es Widerstände auch unterhalb des Adels eventuell gegen diese Innenentwicklung im Kirchenstaat gegeben hat. La reazione della nobiltà a questo tipo di sviluppo e l'eventuale reazione di altri strati della popolazione. Ma qui si va appunto in questioni estremamente complesse, e non è che io possa dire molto. Grosso modo mi sembra che la reazione dell'aristocrazia avvenga in un passaggio dal privilegio politico, stare per dire, al privilegio economico. Quello rimane. Sì, cioè, ed è uno anche dei motivi del mancato sviluppo di una borghesia all'interno dello Stato Pontificio. Cioè, se posso, ma semplificare moltissimo, ecco, quindi posso dire benissimo cose assurde e chiedo di essere corretto. Lo Stato Pontificio, mentre tende alla eliminazione dei diritti feudali e alla eliminazione di tutti i poteri politici autonomi, sia sul piano dei parlamenti, delle rappresentanze, che sul piano più generale della concentrazione del potere, concede alla nobiltà privilegi di tipo economico estremamente forti, che saranno poi appunto anche quelli che determineranno il mancato sviluppo economico dello Stato in ogni caso. Insomma. Parallelamente si verifica la formazione di una nuova nobiltà, che dicevo prima, dei banchieri, insomma, ecco, cioè delle grandi casate legate direttamente o provenienti direttamente dal mondo della finanza. Nobiltà che, mi pare, ecco, nel 6-700 modifica profondamente il volto della vecchia aristocrazia romana, dei Colonna o degli Orsini, insomma. E quindi, oltre appunto a questo problema più generale del rapporto tra Stato e aristocrazia, credo che debba essere studiato proprio il problema della trasformazione interna dell'aristocrazia. Per gli altri ceti sociali, appunto, io credo che gli studi dell'Humeau sulla storia sociale e economica di Roma nella metà del Cinquecento, nella seconda metà del Cinquecento, diano già delle ottime indicazioni, insomma, e che è impossibile qui riassumere. Certo è che ormai è chiaro come la diffusione del banditismo negli anni di Gregorio XIII e di Sisto V, insomma negli ultimi decenni del Cinquecento, sono certamente una reazione allo sviluppo del potere statale, insomma. Cioè, in sostanza, sono proprio la manifestazione di una protesta di fronte non solo alla tassazione, ma tutto l'insieme del rapporto tra cittadino e Stato, in particolare tra i cittadini della campagna, cioè no? È una contraddizione in termini, insomma, ma tra i contadini, diciamo, e il potere politico, che per la prima volta viene sentito come padrone, insomma, come direttamente responsabile della gestione sia della giustizia che dell'amministrazione che delle finanze. Ecco, quindi mi pare che così, insomma, ecco, il superamento della crisi costituita dal banditismo sia proprio una di queste manifestazioni, questo rapporto tra lo Stato e i ceti sociali che in un primo tempo certamente non accettano questo nuovo ordine di cose e che sono, credo, ecco, ricondotti con molta forza all'obbedienza. Ancora il professor Corsigli ha domandato la parola, dopo dobbiamo concludere per una domanda, un paio di domande che proprio rivelano la mia totale ignoranza in materia. Domando, scusa, perciò domando, per il periodo della seconda metà del secolo XV fino alla fine del secolo XVI esistono bilanci separati delle entrate temporali e delle entrate spirituali? Esistono studi specifici in materia? Sarebbe estremamente, almeno per me, interessante poter fare questo paragone anche agli effetti del discorso che si è fatto prima, e specialmente, e qui un po' mi riferisco a qualche accenno fatto dal professor Aderigo, per quella che è stata poi la posizione assunta dopo il 1870, proprio in relazione alla necessità di avere la sovranità temporale a sostegno di quella che era l'azione pastorale. Alla prima domanda dico che non esistono bilanci separati, le valutazioni più sintetiche sono ancora quelle delle relazioni degli ambasciatori veneti. Uno studio molto bello è quello di Monaco, Michele Monaco, sul bilancio del 1526, mi pare, ecco, è apparso negli archivi di Stato, in una collana, mi pare, negli archivi di Stato del 60. Ecco, gli studi oltre questo ne esistono e molto belli, insomma. Ecco, io credo che quello di Bauer, a cui accennava Iedin, sia ancora il più limpido, del 1928 su Historische Zeitschrift. Era stato pubblicato prima, poi in altre cose, ecco, ma cioè di Epoche der Papstfinanz, ecco, di Clement Bauer. Dopo sono stati fatti negli ultimi anni molti studi belli, i migliori sono quelli di Partner sul budget del papato del Rinascimento, poi ci sono questi studi di Monaco che sono apprezzabili, e poi si va alle ultime cose di Rainer sulla Pastinanz und Nepotismus unter Paulus del Fünfte. Allora, che è uscito nel 74, ecco, ma adesso proprio su questo piano è il campo in cui si sono sviluppati di più gli studi in questi ultimi anni. C'è stato veramente un progresso molto fondamentale. Über den Rückgang der kirchlich-geistlichen Einkünfte in den 50er Jahren haben wir genaue Zahlen. Das weiß ich noch genau, die stehen in einem Aufsatz, der für eine Fische für Kehr, für Paul Kehr. Also für den Rückgang der sogenannten geistlichen Einkünfte, da haben wir genaue Zahlen. In der Mitte des Jahrhunderts. Aber natürlich, ich glaube, also der Bodi hat recht, wenn er sagt, also es gibt schon Gesamtbilanzen, danach fragen Sie ja. Eine Gesamtbilanz der Einkünfte des Papstes, sei es aus dem Kirchenstaat, sei es aus anderen Kirchen. Gibt es auch nichts mehr? Nein, das ist eine Domanda. Dottor Frank, lei chiedeva di intervenire, scusi se non ho fatto attenzione. Io ho una Zusatzfrage von Professor Lutz, nämlich diese Frage nach dem Gegenmodell. Da würde ich nachfragen, wie weit hat das bewusste Bauprogramm der Päpste, also im Barockstil, wie weit sollte das auch etwas von dem neuen geistigen Elan, nicht in der Strenge der Calvinisten, sondern mehr unverbindlich, rhetorisch, illusionistisch, gut katholisch, das zum Ausdruck bringen. Wie weit war das bewusst? Sì, ma ecco, il problema è questo, credo che l'attività edilizia, in particolare di Sisto V, rappresenta un punto centrale proprio dell'affermazione di Roma capitale. Cioè, appunto, qui le differenze con Ginevra probabilmente sono abissali, ecco, la politica urbanistica è potere sostanzialmente, insomma. Cioè Roma diventa capitale anche attraverso Sisto V, quindi gli investimenti colossali che Sisto V ha fatto nelle costruzioni di Roma sono, per conto mio, una delle caratteristiche fondamentali del potere. E anche qui è difficilissimo separare i due aspetti, perché le chiese barocche sono fatte contemporaneamente da tutta la grande rete urbana di Roma, insomma, cioè le grandi strade sono aperte in funzione delle chiese, o le chiese sono fatte in funzione della Roma capitale? Qui ovviamente è una domanda retorica, però mi pare abbastanza simbolica, insomma, ecco, per rappresentare un po' visivamente questo sforzo del papato. Bene, con queste immagini penso che possiamo anche concludere per non ritardare le mense, ringraziando il relatore e quelli che sono intervenuti. Devo avvertire soltanto che oggi pomeriggio alle 15, in luogo della relazione del professor Voss, come qui scritto, avrà luogo la relazione del professor Hermann Weber su die Auswirkungen des Konzils von Trient auf Frankreich und England. È stato scambiato il turno. Fast eine Prozession machst du noch dazu. Hast du dich? Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin